un cordiale benvenuto a tutti e a tutte, un grato ringraziamento a chi oggi ci ospita in questo luogo che si trasuda di storia e di spiritualità, ad Andrea Battaglia, presidente della Casa Domenò Italia e artefice della rinascita del monastero, che col tempo probabilmente diventerà anche un centro di promozione spirituale, sociale e culturale di prossimità. Soprattutto un fraterno benvenuto e un immenso grazie a Don Tonino, vescovo Antonio Staglianò, teologo, già docente di teologia sistematica alla Pontificia Università Gregoriana, profondo conoscitore del pensiero di Antonio Rosmini, autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico, alcune sono qui in vendita, vescovo per 14 anni nella diocesi siciliana di Noto e da 2 anni presidente della Pontificia Accademia di Teologia, istituzione che a seguito di una riforma voluta da Papa Francesco è sostanzialmente finalizzata a promuovere l'approfondimento della teologia a servizio dell'evangelizzazione. Don Tonino però, e soprattutto lo abbiamo conosciuto e lo conosciamo soprattutto in quanto inventore e promotore della pop theology, della teologia popolare, cioè di una teologia non lusso per pochi, ma opportunità per molti, possibilmente per tutti i credenti, compresi noi. Noi guardiamo con grande interesse a quest'idea della pop theology. Come si legge in un libro di imminente pubblicazione che raccoglie praticamente tutti gli scritti di Don Tonino sulla pop theology, oggi la catechesi non basta più. Occorre un discorso teologico popolare sulle questioni più importanti e drammatiche dell'esistenza. A me sembra che questa frase che ho estratto dal libro che uscirà sia molto in linea con un'altra citazione di un teologo, Tomáš Halík, molto famoso in questo periodo, il quale dice: forse è giunto il tempo in cui il tempo di abbandonare molte di quelle parole pie che abbiamo continuamente sulle nostre bocche e sui nostri stendardi. Queste parole, a causa di un uso continuo, spesso troppo superficiale, si sono consumate, usurate, hanno perso il loro significato e il loro peso, si sono svuotate. Altre invece sono sovraccariche, rigide e arrugginite, sono diventate troppo pesanti per riuscire ad esprimere il messaggio del Vangelo, la buona novella. Ecco, mi sembra che questa citazione di Halík sia... Poi te la do. No, perché sono in contatto con questo teologo a Lussemburgo. È veramente straordinario, mi sono fatto arrivare tutte le sue opere che sono pubblicate in italiano in Vita e Pensiero, e quindi è una conoscenza recente, specialmente l'ultima opera, Pomeriggio del Cristianesimo, che vi invito davvero a, perché davvero si legge anche come un romanzo, no? E questa citazione è tratta invece da Pazienza con Dio. Perché Don Tonino oggi è qui? E qui perché l'anno scorso, proprio nel giugno dell'anno scorso, qui c'era un suo discepolo, Francesco Cosentino, che insegna all'Università Gregoriana di Roma, nostro amico perché è già venuto 2 volte in Piemonte e una terza volta si è collegato con, via online, e gli abbiamo chiesto di segnalarsi il nominativo di una persona che fosse in grado di venire incontro alle nostre esigenze, ai nostri problemi, cioè sostanzialmente una persona che ci aiuti a capire che vivere oggi una fede cristiana in profondità è utile anche per essere per crescere profondamente in umanità. E lui ci ha suggerito il nome di Antonio Rosentino. Allora abbiamo detto, Antonio Rosentino adesso è presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Pensa un po' se verrà. E allora voi chiedetegli, ed ecco che è venuto. Quindi siamo veramente molto molto contenti. L'incontro di oggi è promosso, come sapete, praticamente tutti voi sapete dalla festa dell'incontro e dalla Casa do Minore, dal Monastero di San Biagio. Pensiamo di fare poi altre iniziative. Il tema, il titolo che Don Tonino ci ha suggerito è questo: Pop Teologi della giustizia dell'amore, come deve essere l'amore per essere come deve. Come vedete, ci sono anche Pierluigi e Antonio che faranno quello che Don Tonino dirà loro, perché sono sorprese, nessuno sa che cosa ha in mente di fare Don Tonino questa mattina. Abbiamo chiesto alla nostra amica Sonia Ristorto, teologa cuneese molto apprezzata da noi, di relazionarsi con Don Tonino. Vediamo, è tutta una sorpresa questa mattina. Io ho già avuto la possibilità di ascoltarlo ieri sera alla presentazione del libro dello Zibaldone della Pop Theology, e quello che mi ha colpito moltissimo e che mi è piaciuto moltissimo è proprio il modo di parlare di teologia rendendolo interessante sia a livello linguistico sia a livello di capacità di comunicazione. Che ritengo che sia una cosa che spesso manchi a molti teologi, la capacità di comunicare proprio il sapere della fede in una maniera tale da rendere quel sapere della fede desiderabile. Ieri sera diceva proprio che quello che manca è il desiderio di andare a scoprire chi era quell'uomo di Nazareth, la rivelazione definitiva, dove appunto vai proprio lì a pescare. E quello che mi è piaciuto è appunto il problema che era, ma la Chiesa ha abbandonato i giovani, nel senso che appunto i giovani hanno tante domande, ne hanno tantissime, e hanno voglia di risposte che siano risposte non campate per aria, ma che siano appunto risposte che vadano proprio a parlare alla testa, al cuore, alla totalità della persona umana, no? Ritengo quindi che la proposta della Pop Theology, di cui trovate tra l'altro il decalogo al fondo di questo foglio, perché è interessantissimo questo decalogo, secondo me ha dei punti fantastici. Io inizio, per farla poi parlare, dal punto 9. Il punto 9 mi piace tantissimo. La Pop Theology è cura della bellezza difficile del Vangelo, oltre e contro le tante forme di estetizzazione del vissuto cristiano che anestetizzano il corpo ecclesiale, spegnendone la vitalità e l'ardore missionario. Ecco, una delle cose che ci manca è proprio la capacità di comunicare questa bellezza difficile senza renderla una bellezza stucchevole. Se ci può dire appunto in due parole come nasce proprio questa questione della Pop Theology, quali sono le esigenze a cui va incontro. Facciale. Se tu potessi continuare, io no. Ti stai introducendo così bene che se continui tu, secondo me è meglio. No, per carità. Spiega tu che cos'è la Pop Theology. Se tu la spieghi, io la esercito, la pratico. È vero. Allora, lenti, si naviga lenti. Il progresso ci ha spenti già. Via tutti quegli entusiasmi. Nessuno che ascolterà. L'arca si è arenata pure lei. Tempi bui un po' per tutti noi. La speranza non ci basta più, poveri uomini. Poveri uomini, Gesù, non ti somigliamo più. Gesù, la rabbia è colpevole. Come menticanti trasmigriamo ormai attraverso monti, mari, pericoli. Gesù, siamo colpevoli. Fiumi ormai interdetti, discariche laggiù. Ciò che credevi un orto è un deserto che avanza. Gesù, non ti somigliamo più. Aiutaci, fratello, se un'altra volta puoi, perché questo fardello è insopportabile. Gesù, siamo colpevoli. Gesù, perdonaci, perdonaci, perdonaci. Di chi è? Renato Zero. Brava, allora l'hai fatto, vedi, non c'è più la possibilità di fare una sola sorpresa. Lei sa tutto. Così, diciamo, introducendo un concerto del grande chitarrista dei Pooh, no? Che mi ha invitato, così ha intercettato su YouTube, dice: ma perché non vieni a presentarmi il concerto lì quando vengo in Sicilia? Dico: sì, vengo volentieri, che mi fai parlare. Quando mi ha invitato ad andare, dice: vai, però mi raccomando, cerca di non fare cose troppo belle, sennò poi quelli ascoltano te e a me non mi vogliono più ascoltare. E ho tenuto, diciamo, 4.000 persone che erano sulla piazza, no? E per mezz'oretta a chiacchierare, no? Sulla musica, e mentre chiacchieravamo sulla musica abbiamo riflettuto di cose che sicuramente riguardano noi, la nostra esperienza di fede, il cristianesimo, Dio, no? Eravamo in una festa popolare cattolica. Quando io sono arrivato, il sacerdote in chiesa con pochissime persone recitava la messa, diciamo, si celebrava la messa, faceva l'omelia che si sentiva dal di fuori, ma chi ascoltava l'omelia del prete? Forse nemmeno quelli che c'erano dentro. Il cattolicesimo convenzionale che riempie ancora le nostre chiese è questo, è inutile illudersi. Alla fine ho concluso proprio recitando questa canzone di Renato Zero e chiedendo al popolo chi fosse questo padre della Chiesa. E tutti quanti, San Giovanni della Croce, così dicendo, no, Renato Zero in una canzone. Quindi, cos'è una canzone? Cosa può essere una canzonetta? Un testo. Un testo che esprime dei significati, dei contenuti, no? Che riguardano che cosa? La vita di noi esseri umani. In questa canzone intitolata proprio Gesù, no? Renato Zero mette in evidenza la grande solitudine che c'è oggi negli esseri umani. E d'altra parte, se noi attingiamo alle analisi dei sociologi, dei filosofi, noi conosciamo le grandi affermazioni, voi siete anche un centro culturale, di Bauman, no? Dice: oggi ci troviamo in una società liquida, no? In una società consumistica, i titoli dei suoi libri, consumo dunque sono, ed effettivamente dentro le logiche dell'ipermercato, no? Uno sente di essere qualcuno, qualcosa, ha il sentimento di sé semplicemente perché mangia, beve e consuma, no? Società liquida, non ci esistono più i famosi valori, nessuno sui valori sa nulla. D'altra parte Nietzsche lo aveva profetato, ormai l'essere è il mondo dei valori, no? È una X, rotola verso una X, un'incognita, e c'è la trasmutazione di tutti i valori di un tempo non esistono più, cerchiamo nuovi valori, ma mentre ricerchiamo i nuovi valori sono già invecchiati e dobbiamo andare avanti verso nuovi valori, e questo dà un sentimento di vertigine. Mentre Bauman diceva che la società è liquida, ormai questa analisi di Bauman è superata. Adesso l'analisi è di Peter Sloterdijk, che ha scritto grandi volumi, soprattutto quella monumentale Sfera in 3 volumi, dice che la società è schiumosa, non è solo liquida, perché vedi, il liquido è l'acqua e l'acqua ha una certa trasparenza, alla fin fine senza acqua noi non possiamo vivere, mi spiego, quando tu parli, ma schiuma, schiumosa vuol dire che resta liquida, perché la schiuma è abbastanza liquida, ma la schiuma impedisce di vedere al di là del proprio naso, per cui niente nella società schiumosa può essere condiviso se non una cosa sola. Paradossalmente, solo una cosa condividiamo tutti in questa società schiumosa. Paradossalmente, una sola cosa la condividiamo: la nostra solitudine. Ognuno di noi è solo con se stesso. Anche quando a Bari dice sì, i giovani si riuniscono e sono migliaia, sono tutti in una discoteca, certo, sono lì ammassati, ma sono numeri solitari, sono assolutamente soli. E Renato Zero in questa canzone parla della solitudine umana, parla appunto delle guerre che stanno ormai sopravvenendo, cioè soli, più soli di sempre, il cuore non ce la fa a vedere anche tutte queste guerre che circolano. Papa Francesco parla di guerre in tutto il pianeta della Terra, ci sono 34 fronti di guerra aperta nel pianeta Terra, in questa guerra mondiale consumata a pezzi, dice. E poi affronta anche alcuni argomenti che Papa Francesco sta affrontando, Laudato Si, Laudato Deum, no? Sui cambiamenti climatici, su quell'ecologia, che chiamiamo già da Giovanni Paolo II in poi un'ecologia integrale, no? Un'ecologia umana, perché obiettivamente tutto è intrecciato, ma non soltanto fisicamente tutto è intrecciato, ma l'universo in espansione è intrecciato soprattutto perché c'è questo intreccio? È perché c'è l'uomo, è intrecciato con l'uomo e l'uomo guarda l'universo in espansione, per cui è il logos umano. Logos vuol dire legame, no? Leghe in ciò che è isolato viene messo in comunicazione. Ebbene, fiumi ormai interdetti di scariche laggiù, come stiamo creando, come stiamo vivendo in questo mondo che stiamo avvelenando pure l'aria? Qual è il pianeta Terra che lasceremo alle generazioni future dopo che avremo sfruttato tutte le risorse vitali della Terra? E il sistema Gaia sembra non funzionare più, implodere. È la tesi fondamentale di Renato Zero in questa canzone ascoltata da milioni di persone, mentre le prediche in chiesa non vengono ascoltate nemmeno da quei quattro gatti che ancora resistono ad andarci, perché il grande problema è precisamente questo: ma come cavolo fate ancora ad andare in chiesa? Perché dovete andare in chiesa? E chi ci va in chiesa? I bambini piccoli, che ancora non sono consapevoli del perché devono andarci. È perché la mamma e la nonna dicono andiamo in chiesa. E le persone anziane, che grazie a Dio, per cui c'è un'utenza, no? Dentro le chiese cattoliche, e a questa popolazione noi parliamo. I bambini vengono catechizzati, in qualche misura ancora sopportano il catechismo che noi cerchiamo di organizzare. Le persone adulte non hanno bisogno di catechismo perché già loro l'hanno fatto, è una vita che vanno in chiesa, quindi è una vita che ascoltano le omelie del prete, in qualche misura una formazione cristiana sul piano dei contenuti ce l'hanno, sì, sono convinti e credono che Dio c'è, e che Dio c'è come Gesù ce l'ha detto, e cioè che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e che Gesù è il figlio di Dio nella carne umana, e che questa incarnazione poi ha creato, diciamo, la Chiesa Cattolica, che noi vogliamo bene, viviamo, nonostante gli scandali che ci sono dentro a livello di preti pedofili, di questioni finanziarie e così via dicendo. Noi sappiamo, perché intelligentemente riusciamo a distinguere tra l'ecclesiastico che non si comporta bene e la Chiesa Cattolica, che è fondata, essendo corpo mistico di Cristo, sul Vangelo, sull'esperienza di Gesù di Nazareth e soprattutto sulla risurrezione. No? E siamo ancora là, per cui gli adulti non hanno bisogno di formazione catechetica e così via dicendo, però vedono TV 2000, ascoltano le catechesi del mercoledì del Papa, qualche misura fanno da loro, no? Fanno da loro, ma non sono necessari percorsi catechetici, educativi per le persone un po' più anziane, perché alla fin fine, scusate, nessuno si offenda, perché alla fin fine poi la persona anziana non è che ci interessi tanto. E perché non è che ci interessi tanto? È perché, come si dice, il futuro è dei giovani, no? Se la Chiesa Cattolica vuole dare, vuole avere futuro, e dice allora no, voi giovani, tutti gli anziani, perché noi vogliamo avere futuro. Beh, insomma, noi adesso abbiamo speranza nel paradiso, per cui dovremmo smetterla con questa storia, no? Di non pensare alla morte o facendo gli scongiuri e così via dicendo. Siamo sereni, no? Siamo credenti, sappiamo, non sappiamo quando moriremo, ma sappiamo che moriremo e vogliamo morire nella speranza di un Dio che ci accoglierà in paradiso e ci dirà: vieni benedetto del Padre tuo, perché quando avevo fame mi hai dato da mangiare, quando avevo sete mi hai dato da bere, quando ero svestito e nudo mi hai coperto, quando ero nella disgrazia sei venuto a trovarmi, goditi la pace eterna, che poi non sarà mica una cosa statica come in un museo dove a un certo punto vado lì, tu ti fai il giretto, dici: ah, Dante Alighieri, ah, questo Giovanni Paolo II, no, sarà un movimento d'amore. Viaggeremo a una velocità superiore a quella della luce, 300.000 chilometri al secondo, e godremo di una gioia, di una felicità inimmaginabile, ma sappiamo che questo sarà, ecco, la speranza cristiana, no? Qual è il dramma del cattolicesimo odierno, e quindi il nostro, se vogliamo bene alla Chiesa Cattolica? È che i giovani non ci sono più, perché non ci seguono più, e anche quelli che ci sono, effettivamente, esperienze di incontro con nostro Signore Gesù Cristo, fatta salva i miracoli che lo Spirito Santo riesce ancora a produrre, e il fatto che il 1° luglio il Santo Padre canonizzerà Carlo Acutis, per me è una grande speranza sul mondo giovanile, sul mondo dei ragazzi, perché laddove noi ecclesiastici, anche come chiesa ufficiale, non riusciamo a raggiungere, a pervenire, allora la forza e la potenza dello spirito anima, e chissà quanta ricchezza e bellezza cristiana c'è dentro i cuori, no? Dentro i cuori, dentro le intelligenze, dentro i corpi, no? dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, per cui noi da cristiani restiamo ottimisti. Nel frattempo ci poniamo il problema: ma come parlare ai giovani? La pop theology nasce proprio da qui, l'esperienza che feci davanti a dei giovani, 300 giovani convocati a un convegno di alta filosofia, la metafisica del concreto di Carmelo Ottaviano, che a un certo punto era lì a ascoltare niente, questi filosofi che erano venuti da Milano, e io dovevo tenere le conclusioni. Quando mi hanno passato il microfono per tenere le conclusioni, mi è venuto in mente Benigni, perché non volevo tenere le conclusioni, e poi mi è venuto in mente Benigni, ma è stato un attimo, non ci ho pensato. Mentre mi davano il microfono mi è venuto in mente Benigni, e io che volevo dire loro: guardate, non vi faccio le conclusioni, è l'una, non avete ascoltato niente, così ho detto, però per tenere queste vostre conclusioni ieri sera ho chiamato Roberto Benigni. Tutti quanti in silenzio. E sapete che cosa mi ha detto Roberto Benigni? Guarda, Don Tonino, se vuoi parlare davvero concretamente di metafisica a dei giovani che non hanno ascoltato niente prima, e i professori c'erano, ma i professori lo sapevano, non li vedevano, che li chiacchieravano, si alzavano, andavano, e loro leggevano il loro testo. Devi cantare a questi giovani la canzone di Noemi, vuoto a perdere. Sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze. Mentre io cantavo, cantavano pure loro. Perché voi non la sapete, ma loro sì. è questa la prima grande meraviglia. La prima grande meraviglia, quando sento alcuni confratelli vecchi, sì, ma io non le conosco queste canzoni, ma chi ti ha detto che le devi conoscere tu? L'importante è che le conoscono loro. Allora, se tu sai però che loro conoscono queste canzoni e vuoi parlare a loro, probabilmente hai una chance comunicativa con loro, se vai a impararle quelle testi, no? A te non ti interessa nulla di che cosa dice Renato Zero in Gesù, di che cosa dice Vasco Rossi in Vivere, che cosa dice Vasco Rossi nella canzone La Verità, no? Però in qualche misura, se tu vedi che Vasco Rossi scrive La Verità e sai che viviamo in un contesto in cui nessuno crede che esista la verità e che la verità, anche se esiste, non può essere conosciuta, ti viene la curiosità di dire ma vediamo che dice. Ma no, non ti viene la curiosità di andare a vedere Vasco Rossi. Ma chi è Vasco Rossi? Vasco Rossi è un cantante, perché dovrei andare da Vasco Rossi per capire che cosa dice in questa canzone La Verità? Se voglio sapere che cos'è la verità ed essere interessato, vado da San Tommaso d'Aquino, vado dal De Veritate di Sant'Agostino, benissimo. Ma i giovani vanno da Vasco Rossi, non da Tommaso d'Aquino. E questo mi dispiace profondamente, a me che amo Tommaso d'Aquino. Ma è colpa mia che i giovani vanno da Vasco Rossi e non da Tommaso d'Aquino. E allora apriamo gli occhi e non mettiamoci le banane davanti agli occhi. E visto che i giovani vanno da Vasco Rossi e tu vuoi parlare ai giovani, vai pure tu da Vasco Rossi. Se no la funzione comunicativa con i giovani non accade con te, perché tu avrai mille giovani. E quando dici Tommaso d'Aquino sulla verità ha detto questo e questo, sai quanto ti ascoltano questi? Ma proprio! Invece se vai da Vasco Rossi e gliela cantilli pure, la pop teologia nasce come cantillazione più che come canzone, allora le cose cambiano. Perché per esempio puoi iniziare dall'ultima parola di questa canzone: la verità non è una cosa, la verità si sposa. A chi ti sposi tu? Ti sposi una cosa, ti sposi un oggetto o ti sposi una persona? La verità non è una cosa. San Tommaso d'Aquino lo dice. E mentre parli di Vasco Rossi, dici, ma sapete che pure un grande teologo del Medioevo diceva sta cosa qua, e puoi parlare di San Tommaso d'Aquino. C'è un professore di Perugia che ha appassionato i suoi studenti del liceo classico ai classici, chiedendo ai suoi alunni di studiare le canzoni di Laura Pausini, di cosa, e vedere i collegamenti che ci sono. Questi qui, che dei classici greci proprio ne avevano una noia mortale, si sono appassionati ai classici grazie. Qual è il problema? Che cosa stai distruggendo? Stai non educando la gente? A te interessa che questi conoscono i classici o no? Sì, ebbene, se per far raggiungere lo scopo tu usi questo strumento, questa via, dunque questo metodo, perché il metodo è metà odos, è la via seguendo la quale si raggiunge l'obiettivo, a te interessa l'obiettivo o no? Intanto l'Accademia della Crusca, che è questa accademia che presiede all'evoluzione della qualità linguistica della lingua italiana, no? Ha messo il parallelo La solitudine di Laura Pausini e L'infinito di Leopardi. Allora vuol dire che queste canzonette sono pezzi di letteratura. Ed è vero che qualche anno fa un cantante, Bobby Dylan, ha preso il premio Nobel per la letteratura, non per le canzoni, che non c'è. Allora, se Bob Dylan è un cantante e prende il premio Nobel per la letteratura, vuol dire che tu nella letteratura, cioè romanzi, poesie e quant'altro, ormai devi integrare, oppure critica letteraria, devi integrare anche queste canzonette, no? Queste canzoni da nulla, Kleineslied, come li chiamava Karl Rahner, no? Che effettivamente per essere canzonette, canzoni da nulla, in realtà stanno diventando nuove forme di espressioni poetiche capaci di intercettare l'umano dell'uomo e dare messaggi di speranza, come talvolta anche messaggi negativi, addirittura satanici, in maniera pure subliminale. Per cui c'è bisogno di entrare nel mondo giovanile, che è il mondo della musica, che è il mondo della cinematografia, perché i giovani che non stanno più in chiesa stanno per ore su Spotify ad ascoltare la musica che tu non vuoi ascoltare, a vedere le saghe televisive che tu non vuoi vedere. Perché? È perché tu sei impegnato in cose serie, mentre le saghe televisive sono effimero. La canzonetta è intrattenimento. Col cavolo, la canzone è intrattenimento. Quando 100.000 giovani stanno in uno stadio in adorazione ad ascoltare il loro cantante, e quando il cantante comincia a parlare, a cantare, non parla, ma canta, cioè parla attraverso le parole, che cosa accade? Accade una profonda comunicazione. Tanto più profonda quanto meno è controllata criticamente. Per cui il cantante canta e poi a un certo punto smette di cantare, pone il microfono così e cantano tutti. Perché mentre il cantante canta, tutti, 100.000 stanno cantando. Perché i 100.000 che sono lì e che seguono la loro star conoscono tutte le canzoni del cantante a memoria. Vuol dire che nella loro memoria, in quella zona del cervello destinata alla memoria, le sinapsi neurali di questi ragazzi vibrano, no? Ballano, danzano dentro quei testi e dentro quella melodia, no? E dice: vabbè d'accordo, niente, perché se voi studiate bene il nostro cervello, come le neuroscienze ci stanno dimostrando, che cosa accade? Accade che i 100.000 miliardi di neuroni che abbiamo nel cervello, 100.000 miliardi è un numero astronomico, vuol dire che ne avremo anche di più, infiniti, questi 100.000 sono tutti connessi tra di loro. Il fatto cioè che alcuni milioni di sinapsi neurali nel mio cervello sono destinati attraverso la mia memoria a sapere le canzoni di Renato Zero piuttosto che di Tiziano Ferro, mica non c'entra niente con tutta la mia attività intellettuale, anche con la mia preghiera. Per cui quando io vado a pregare, dice: adesso sto pregando Gesù, che c'entra la mia memoria dove ci sono dentro tutte le canzoni? Il depositarsi delle canzoni nella memoria dei giovani sono il loro corpo, fanno parte di un'esperienza corporea che resta dentro la nostra vita e si sedimenta nell'anima. Sei nell'anima e già lì ti lascio. Per cui attenzione a tutti i veleni che attraverso certe telenovelas ingeriamo dentro la nostra coscienza. Perché, come ho spesso detto quando ero giovane prete, parroco alle Castella, ai miei astanti, che erano signore relativamente anziane, no? Che ogni mattina, ogni giorno si vedevano beautiful, e io sostenevo che se voi vi vedete beautiful, che è una saga di cornificazione universale, cioè tutte fanno, no, figli, cioè, quindi è una saga, e si chiama beautiful perché vuol dire in inglese bello, oh che bello, quella cosa lì. Se tu ti vedi un quarto d'ora al giorno beautiful quando vai in chiesa la domenica, come fai a capire il prete che ti dice Dio è solo e sempre amore? Non lo capisci, ma non è che sei stupido, perché senti delle parole e non capisci il significato, perché tu hai creato dentro di te condizioni, no, umane, di carattere intellettuale, emotivo, sentimentale, per cui puoi ascoltare il Vangelo 100.000 volte, non lo capirai mai, il Vangelo non ti entrerà dentro perché viene immediatamente respinto. da quello che vedi nelle saghe televisive, oppure da quello che hai acquisito nella cultura popolare. Ma voi che state a fare qua? La cultura popolare, no? E come dico sempre a mia madre un po' si offende, dico mamma, ma io lo devo dire, no? Ama chi ti ama, rispondi a chi ti chiama, perché amare chi non t'ama è una follia. Mia madre, cattolicissima, da bambina, ha fatto tutta l'azione cattolica, ministra straordinaria dell'Eucaristia, diciamo esercizi spirituali infiniti, tutto quello che vuoi, la mamma di un prete, la mamma di un vescovo, ogni giorno a messa, finché purtroppo con la morte di mio fratello Pino ha cominciato nel suo dolore, ha cominciato a star male, per cui cadeva sempre, insomma, ma sempre, sempre, ma su questo tutto quello che ha vissuto cattolicamente non l'hanno scalfita di un grammo, si può dire così, su questo dogma della cultura popolare che lei invece ha acquisito per osmosi e ha fatto suo. Ama chi ti ama. Eppure quante volte avrà sentito? È stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a chi vi fa del male. No, ama chi ti ama. Amare chi non t'ama è una follia, sì, ma è la follia della croce. È la follia di Gesù. Com'è che è accaduto che in 60 anni di cristianesimo praticato, di parola di Dio ascoltata, spezzata nelle omelie, di esercizi spirituali, di cibarsi di Gesù e Eucaristia, mia madre non è stata cambiata dentro questo elemento? Voi dite, vabbè, mo che c'è? Che c'è? Sì, se tu riduci questo elemento a una questione intellettuale va bene, però io vedo mia madre che quando non si sente rispettata dai figli interagisce in un certo modo. Mi spiego? E allora, quando noi cristianamente diciamo bisogna perdonare, ma se Gesù ha perdonato addirittura il proprio nemico che lo sta uccidendo, se un Don Pino Puglisi con un sorriso comunica il perdono a chi lo sta uccidendo, se un Santo Stefano primo martire dice questo, allora capisci che il genio del cristianesimo è il perdono. Perdonare l'imperdonabile è il genio del cristianesimo. E questo genio del cristianesimo è per la vita degli esseri umani. Perché se mia madre va in chiesa tutte le domeniche, fa tutto quello che deve fare, tutti i giorni, e prega col Santo Rosario ed è inchiodata lì, no? Però quando interagisce con gli esseri umani che adesso gli stanno più intorno, che sono i figli, i nipoti, interagisce secondo il dogma della cultura popolare, e allora è chiaro che mia madre morirà senza aver vissuto quella perfezione di umanità, quella bellezza di umanità a cui è stata destinata prima della fondazione del mondo in Cristo Gesù, perché noi siamo stati predestinati in Cristo Gesù a vivere la sua bella e buona umanità, perché la sua bella e buona umanità viene prima della nostra umanità, perché prima di Adamo, che è il primo uomo da cui noi discendiamo, c'è Gesù. È la sua umanità. L'umanità di Adamo è stata creata nell'umanità di Gesù, non viceversa. L'umanità di Gesù viene dopo. E questo chi lo dice? La grande teologia. Dice, ecco la grande teologia. No, no, no. Leggi il Vangelo. Come mai ancora non ti sei accorto che nel Vangelo c'è scritto questo? Giovanni immediatamente lo dice nelle prime righe. Viene dopo di me, ma era prima di me. Prima che il mondo fosse. E quando gli interlocutori dissero a Gesù, ma non hai nemmeno 50 anni e dici di aver visto Abramo, tu Gesù, Gesù dice, non ho detto che ho visto Abramo, come faccio a dire che io ho visto Abramo? Io ho detto di più, io ho detto che Abramo ha visto me, non io ho visto Abramo. E quelli si scandalizzano, ma come? Non hai nemmeno 50 anni, dice, visto Abramo. No, Abramo ha visto me perché io vengo prima di Abramo. Io, Gesù di Nazareth, il Verbo nella carne, vengo prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse. E il concilio di Nicea scomunica tutti quei cattolici, o che non cattolici, ma i cattolici si scomunica, scomunica i cattolici. Il concilio dice, tu scomunica tutti i cattolici che di Gesù di Nazareth dicono che quando non c'era, non c'era. Perché di Gesù di Nazareth bisogna dire quando c'era, c'era. Quando non c'era, c'era. C'è sempre. Ieri, oggi e sempre. Se questo è vero, ecco, apriamo adesso la pratica pop teologica, no? Se devo dire queste cose a dei giovani, se io avessi avuto qui adesso al posto vostro dei giovani, sapete come avrei cominciato? Avrei preso la chitarra e avrei suonato e cantato una canzone di Ligabue, Metti in circolo il tuo amore, che è bellissima e che i giovani sanno a memoria, e poi avrei, come dire, con loro ragionato su cos'è l'amore, chi è l'amore, no? Perché se il linguaggio dei giovani è questo della musica pop, per dire queste cose teologiche, perché le cose che vi dico sono teologiche, perché sono teologiche? Perché riguardano il sapere della fede, riguardano la rivelazione cristiana, quindi riguardano il Dio dei cristiani. Solo il Dio dei cristiani dice perdona l'imperdonabile. Solo il Dio dei cristiani dice tu non ammazzerai nessuno. Lascia stare poi che nella Chiesa Cattolica anche noi abbiamo ammazzato tutti, come il vecchio Dio che ha ammazzato tutti pure lui, no? Vi risulta, mentre leggete le sante scritture, che ammazza Evei, Gebusei, Cananei, Perizziti, Filistei, Amaleciti, Madianiti, Moabiti, Gergesei, dico, e tutti i regni di Canaan, eterna la tua misericordia, grazie Dio che hai ucciso Og, re di Basan, Seon, re degli Amorrei, e per far posto a Israele hai ammazzato tutti, li hai sterminati, grazie eterna la tua misericordia. Pensate al canto di Miriam, no? Una volta che è andato di là, Miriam loda il Signore, canta, e in cielo si fa festa, perché in cielo parteggiano tutti per il povero popolo di Israele che è stato liberato dalla schiavitù dell'Egitto e per il quale Dio ha fatto grandi prodigi. Grandi saranno sicuramente questi prodigi, ma un po' cattivello, vedi, perché lui pensa, lei pensa a Dio e dice cattivello. Potrebbe dire da violenza maniacale, da violenza maniacale, perché vabbè, le piace, ma l'ultima è esagerata, no? Avrebbe dovuto approfondire la sapienza greca, no? Che si esprime in meden agan, nulla di troppo, no? Era esagerata, ecco. D'altra parte, se ci pensate, se Dio è Dio, o fa cose esagerate, oppure no, non può apparire che è Dio. Se le cose che fa Dio le possono fare tutte, allora uno può venire il dubbio che non sia stato Dio, no? Perciò quando, mi pare che era Gedeone, no? Doveva andare in guerra e si era presentato con 20.000 soldati, Dio interviene e dice, senti Gedeone, ma se queste 20.000 soldati, la guerra la vinci subito, no? E poi chi viene a sapere che la guerra l'ho vinta io e non tu? 20.000, allora fai così. Di loro chi se ne vuole andare a casa? E li mandi a casa. E allora da 20.000 si ridussero a 10.000, quindi 10.000 se ne andranno a casa. E però Dio dice, sì, ma 10.000 sono ancora troppe. E se no tu puoi pensare che sei stato tu a vincere la guerra, non io. Allora fai così, di questi 10.000 selezioniamo, no? E farli bere, non so, all'acqua, chi beve come i cani leccando, no? Chi invece porta l'acqua, insomma seleziona, e ne restano quanti? 300 mi pare. Beh, con 300 si può capire che la guerra l'ha vinta Dio e non Gedeone. Le cose esagerate, ammazzo tutti i figli primogeniti d'Egitto. Non si dovrebbero poter sentire queste cose più, eppure continuiamo a sentirle. Quindi vedete, o io sono destinato al rogo come Giordano Bruno, oppure questa cosa qua che abbiamo ancora in testa tutti, bisogna toglierla. È come se venisse Gesù e ci dicesse: sono sacerdote, ma per carità, hai combinato il papà mio, che è così buono, solo lui è buono, non c'è bontà se non è il papà mio, solo Dio è buono. Perché mi chiami buono? Il giovane, no? Solo Dio è buono, papà mio, è di una bontà infinita, è di una misericordia infinita, sa essere solo buono. Lui proprio cattivo non sa essere, non è capace. È onnipotente nell'amore. È onnipotente nell'amore. Se è onnipotente nell'amore, come deve essere l'amore per essere come deve? L'amore lo vediamo come lui. Onnipotente nell'amore, l'amore è lui. Qual è l'annuncio cristiano? L'unico annuncio cristiano, l'unica frase che dice tutto il cristianesimo: Dio è amore. E non è che non lo sapevano prima, ma con Gesù come deve essere l'amore per essere come deve? L'amore per essere come deve essere così come io te lo mostro. Guarda lì, quello è l'amore. Non esistono altri amori. Quello è l'amore. Una mamma ama il figlio, e allora una mamma che ama il figlio vuol dire che si impegna per il figlio che ama in un rapporto per cui rischia la vita per lui. Perciò lo ama, perché una mamma che ama suo figlio e per suo figlio non rischia la vita. Perché quando gli dicono: tuo figlio è nel tuo ventre, ma se nasce potresti morire tu, dice: no, io ho altri due figli e quindi elimina lui. Non mi pare che sia un grande amore. E non è che si può dire che una donna incinta non ami il bambino che ha nel ventre. Magari lo ama, ma è l'amore giusto? Come deve essere l'amore? Porta i crismi e le cose del crocifisso, così deve essere l'amore per essere come deve. Diversamente, Dio è amore. Se Dio è amore, così, e Dio non manda dolori, togliti dalla testa che Dio mandi dolori, che Dio mandi castighi, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, cacciano dall'atto di dolore. Non esiste il castigo di Dio, non è mai esistito. Mai Dio ha castigato gli esseri umani, mai. Chi lo dice? Io? Ma come faccio io a dirlo? Se lo dicessi io mi farei Dio. Se lo dicessi io questa cosa qua, voi direste: ma scusa, ma chi credi di essere per sapere esattamente di Dio come stanno le cose? Che i castighi di Dio non sono mai esistiti, ma come fai a saperlo? Sei Dio tu? E dico: no, io non sono Dio. Ma la stessa cosa capitò a Gesù, perché Gesù disse questo. Perciò il sommo sacerdote si stracciò le vesti e dice: ha bestemmiato, si è fatto Dio, perché Gesù ha detto al sommo sacerdote: togliti dalla testa che l'abba mio abbia mai fatto male a qualcuno. A nessuno l'abba mio ha fatto male. Perché? È perché lui non sa fare il male. Il male, lui è onnipotente nell'amore, quindi impotente radicalmente a compiere il male. Se le cose stanno così, dico, no? Io non vengo bruciato al rogo. E però, se io non vengo bruciato al rogo, E noi dobbiamo cambiare la prospettiva, no? Cioè, cambiamo la prospettiva su Dio, sul mondo, sulla nostra amicizia, su quello che chiamiamo amore, sulla giustizia. Dobbiamo cambiare la prospettiva. Dice, qual è? In quale prospettiva andiamo? Ebbene, in quella di Gesù. Mettiti nella prospettiva di Gesù e tutto è chiaro. Mettiti nella prospettiva del crocifisso e tutto è chiaro. Caro Kirill, tu che dici che Gesù Cristo è dalla tua parte in questa guerra santa di occupazione ed eventualmente impedisce ai cattolici di dirti qualcosa di evangelico, perché subito tu dici, ma voi nella vostra storia avete dominato su eserciti e li avete mandati a morire per liberare un fantomatico santo sepolcro, no? Kirill, devi sapere che nella prospettiva di Gesù, Gesù non sta dalla parte tua, dalla parte sua, non sta dalla parte di nessuno. Gesù sta dalla parte sua e la parte sua se l'è scelta, è la croce, e vuole che dalla parte sua tutti gli esseri umani vadano. Perché se tutti gli esseri umani andassero dalla parte di Gesù, si amerebbero, si perdonerebbero, non si dominerebbero, no? Vivrebbero una relazione con l'ambiente. Ora, se dovessimo dire queste cose a dei giovani che non vanno in chiesa, che sono voi, come potremmo comunicare? Io chiedo a voi di parlare e di cantare il linguaggio dei giovani, no? Loro sono qua e hanno preparato, perché io gliel'ho chiesto, alcune canzoni. Allora vi chiedo di cantare Credo negli esseri umani. Io ai giovani racconterei di queste cose che vi ho detto qui, no? Attraverso il loro linguaggio, meglio, attraverso la loro lingua, attraverso la loro lingua, perché il linguaggio è ciò che ci accomuna tutti, ma le lingue sono specifiche. Qual è la lingua del mondo giovanile oggi? Sicuramente è la musica, e la introduco così, con un detto di un grande filosofo del Novecento, Friedrich Nietzsche, che citeremo spesso, dice: quelli che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da coloro che non potevano sentire la musica. Cioè, tu non senti la musica e vedi quelli che ballano, dici, ma che sono pazzi? E sono ubriachi. È stato come è capitato il giorno di Pentecoste a questi apostoli, dice, ma che se sono ubriachi? Perché sono ubriachi? Perché tu non senti il vento dello spirito, perché tu sei muto, no? E a questa grande visione, quelli invece sono animati dallo spirito. Ebbene, immaginiamo adesso noi che Gesù è sul fiume Giordano. Una voce squarcia il cielo e canta Esseri umani di Marco Mengoni. Allora, siamo a fiume Giordano, eh? Siamo a fiume Giordano, eh? C'è Gesù lì, una voce squarcia, ricordate l'episodio evangelico, questa è l'umanità in cui io confido e mi compiaccio. Seguite lui! Immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, la cantano tutti i giovani, anche i ragazzini. Gli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio. Coraggio di essere umani, credo negli esseri umani. Potreste cantarlo anche voi, perché vi imbarazzate, dice no, io sono anziano, o sono maschio e non canto le canzoni, capito? Di essere umani. Essere umani ci vuole coraggio. Se non hai coraggio, come fai a interpretare la tua umanità seguendo Gesù? Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te. Metti un po' le a che splendore che sei. Nella tua fragilità, l'essere umano è fragile. E tutti che non siamo soli a combattere questa realtà. E non siamo soli a combattere questa realtà. Siamo tutti fragili. Esseri umani. Credo negli esseri umani, crediamo negli esseri umani. Coraggio di esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno il coraggio. Coraggio di essere umani. Ci vuole coraggio per essere umani, ma bisogna anche crederci. Un vecchione dice: credi in questa umanità, anche restassi un solo uomo, chiamami solo amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Vedete come le canzoni si intrecciano con lo stesso comunicato, con lo stesso messaggio. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Ancora. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio. Coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. L'amore ha vinto. Niente e nessuno ti può separare dall'amore di Dio. Nella persecuzione, nella fame, nel pericolo, nella nudità, nella spada. Perché in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di Cristo, che ha vinto la morte per noi. Questa canzone di chi sta parlando? Sta parlando di nostro Signore Gesù Cristo risorto. Perché solo nostro Signore Gesù Cristo risorto dice che l'amore ha vinto, vince e vincerà. E allora può anche essere un testo di una canzone, ma è il genio del cristianesimo che è espresso qui dentro. O non ve ne siete accorti? Bene. Credo di aver risposto alla tua prima domanda, ma bene un'altra. Allora, mentre parlava, io stavo pensando, ho un mio caro amico che è un prete e lui utilizza nelle omelie le canzoni. Quindi c'è il Vangelo, dopo lui prende sempre, sceglie una canzone appunto conosciuta di solito dai giovani, che richiama in qualche maniera l'Evangelo e poi da lì parte a fare l'omelia. E quindi questa cosa io la trovo ottima, appunto, riprende proprio la pop theology senza conoscerla, perché l'altro giorno gliene ho parlato, fa non lo conosco, poi gli prendo un libro. E comunque la questione è questa, no? Lui riesce anche, sia quando i giovani sono pochi, perché in chiesa ovviamente sono pochi anche lì, ci mancherebbe, in occasioni come la scorsa settimana è morta una ragazza giovane, quindi c'era la chiesa piena di giovani. E lui è proprio partito da un testo di Joe Evan sulle persone medicina, dicendo che Gesù era una persona medicina, quindi aveva tutta questa gente che conoscevano effettivamente questo cantante, che era il preferito della ragazza morta, e secondo me è andato a toccare proprio qualcosa di questi ragazzi che erano lì in quel momento, obbligati a essere lì dentro, magari ragazzi che non avrebbero mai messo piede lì dentro. Il mio problema è che non tutti, o meglio molti, non apprezzano o criticano questa metodologia di utilizzazione delle canzoni all'interno dell'omelia. Cioè sono proprio insofferenti. O a qualcuno piace tantissimo, altri invece sono insofferenti. E lo senti poi quando esci o quando ne parli. Cioè quindi è una cosa che ad alcuni dà proprio fastidio. Ma alcuni chi? Quelli di una certa età? Non solo, anche, no, i giovani no, ma anche gente, io non mi sento proprio vecchia, anche gente della mia età, che quelle, io sono sui 40, non ancora, 38, che quelle canzoni anche le conosce, le vive, io le conosco queste canzoni, ma anche gli altri miei coetanei. Non riesco a capire quale sia il malessere, perché poi non te lo sanno spiegare quando gli chiedi, ma che fastidio ti dà? Non riesco a capire quale sia il malessere legato a questa cosa. O è un'impostazione per cui sei abituato talmente tanto dopo 40 anni di vita a un'omelia fatta in una determinata maniera che non tocca nessuno, oppure l'altra cosa che mi sono posta è una critica che ho ricevuto anch'io ed è: parli difficile. Io dico: come parlo difficile? Io parlo di solito, sono abituata a parlare ai bambini, insegno alle elementari, e quindi parlo in una maniera che si comprendano le parole. E poi ho capito, perché me l'hanno spiegato, non è il parli difficile, utilizzi un linguaggio difficile. No, la questione è: dici delle cose difficili perché io le capisco, che magari hai già sentito, hai già letto, hai già, ma in un linguaggio che è un linguaggio che non ti va a toccare, perché non è il linguaggio che parli tu, non è la lingua, come diceva, non è la lingua che parli tu. Può essere questo, non lo so. L'altra questione è, e qua parto poi per fare la domanda, alla numero 4. Questo mi provoca tantissimo. Del manifesto, scusate, il numero 4 del manifesto. La comunicazione è lo spazio senza il quale tutto il lavoro dei teologi di professione è praticamente inutile. Cioè, sta cosa, se un teologo la legge, gli viene un attimo un colpo, perché dice: ok, ho studiato tanto, sono in grado di comunicare quello che ho studiato? E l'altra questione è: sono in grado di comunicare quello che ho studiato perché ci nasco così, quindi ho questa capacità comunicativa ed è un conto. D'altro lato, se non ho questa capacità comunicativa, non ci nasco così, non parlo i muri di natura, la questione è: chi me lo insegna? Cioè, i nostri percorsi di teologia, i nostri percorsi di seminario, i nostri percorsi appunto che cercano di formare dei formatori, che dovrebbero poi appunto la teologia non tenersela per sé e parlarsi addosso, ma invece andare a fare in modo che quegli studi che loro hanno fatto abbiano senso nel cuore delle persone che stanno ascoltando e nella testa delle persone che stanno ascoltando. O ce l'hai di natura, oppure chi te lo insegna? Questa è la mia questione, ed è anche a un certo punto di vista un problema che io ritengo grosso. Bene, grazie. Allora, pop teologi, avete cosa vuol dire pop? Pop vuol dire popolare, però pop vuol dire pop music. Queste canzoni che abbiamo cantato e che abbiamo citato fanno parte della musica pop, no? Musica pop. Quindi pop theology, il problema non è pop, il problema è theology. Cioè, il popolo cattolico non sa che cos'è la teologia. Non sapendo che cos'è la teologia, non ha il sapore e il gusto della teologia. E pensa appunto che può farne a meno. Non devo insegnare religione cattolica nelle scuole dello Stato. Non devo fare il professore di teologia. Non devo diventare prete. Non devo diventare diacono. Che interessa la teologia? La teologia la studino loro. Ma al popolo dei credenti, al cattolico normale, ma anche al cattolico spirituale. Intanto il Michele Do si fa dare un anno sabbatico per ripensare e poi dice che bisogna ritornare a pensare. E pensare che vuol dire? Pensi. Cioè, teologi in senso proprio, non dico che siamo tutti, ma dobbiamo essere tutti, se vogliamo davvero essere cattolici. Perché la fede cattolica è di tal fatta che se tu non la pensi, non è la fede. Punto. Fides nisi cogitatur nulla est. La fede che non si pensa è nulla. Così come l'altra. Fides quaes intellectum. La fede cerca di intelligere, di venire a sapere, di essere consapevole. L'intelligenza della fede, il venire a sapere le cose come stanno in verità, è interiore all'atto di fede. Non c'è la fede e poi tu dici: allora io c'è la fede, io credo, e poi dopo io, sai, io sono curioso e voglio cercare di conoscere meglio e vado a utilizzare l'intelligenza. No, no, no, no, no. Se credi, credi, e mentre credi cerchi di conoscere, di sapere ciò che credi, perché se tu non conosci e non sai ciò che credi, non stai credendo cattolicamente, è un'altra fede, ma non quella cattolica. Mi spiego? Capite perché San Giovanni Paolo II, prima di morire, quando era già malato e anziano, ha pubblicato una grande enciclica intitolata Fides et Ratio, fede e ragione. Quando è stato presentato il Michele Do, è stato detto: un linguaggio poetico rigoroso. Eh sì, perché normalmente quando uno parla un linguaggio poetico, poi non sarebbe rigoroso, perché rigorosi sono soltanto i pensatori, i filosofi, le cose. No, la poetica e la retorica mi pare che siano libri scritti da Aristotele insieme alla logica e alla metafisica. Non ho capito perché a un certo punto in Occidente, con la scoperta della metafisica di Aristotele, da Tommaso in poi, Carlo Alberto, Alberto Magno, logica e metafisica, poi arriva Kant, metafisica niente, la logica non la studia più nessuno, ma la poetica e la retorica erano vie di accesso alla verità. Mi spiego? Allora, ritornando alla frase tua, lì nel punto 4 è detto a tutti questi soloni: c'è l'apoteologia, effimero, ma apoteologia è nell'ottava specializzazione funzionale del metodo trascendentale di Bernard Lonergan, che era un grande scienziato e ha scoperto da scienziato in Insight che ogni mente, qualunque cosa cerchi, se cerchi qualcosa, deve attraversare un metodo che è la via secondo la quale giungi ai risultati cumulativi e progressivi. Chiunque, un biologo, un fisico, uno psicologo, un teologo e così via dicendo, il metodo trascendentale applicato alla teologia, il metodo in teologia, sviluppa e svolge, diciamo, dipana la teologia in 8 specializzazioni funzionali, dentro la quale c'è anche l'ermeneutica, l'interpretazione, la scrittura e così via dicendo. L'ultima, l'ottava, è dedicata alla comunicazione ed è lui, non io, che dice: il lavoro delle 7 specializzazioni funzionali precedenti, che è il lavoro che noi teologi facciamo all'interno delle università, senza la comunicazione non serve a niente, è inutile, ed è vero. Scusa, che mi serve che uno mi scrive la simbolica, mi scrive la teodrammatica, mi scrive, no? E quindi scopre cose bellissime, straordinarie, e poi nessuno le sa. Vi faccio una domanda, ma mi dovete rispondere onestamente subito, senza star lì a menarla. Se Adamo non avesse peccato, il Verbo di Dio si sarebbe fatto carne? Forza. Sì. Cioè, sì, ne abbiamo parlato, d'accordo. Siete tutti d'accordo, sì? No, dico, scusate, ma che serve, se Adamo non avesse peccato e noi fossimo ancora nel paradiso, no? Che senso ha che il Verbo di Dio lasci, no? La Trinità di Dio si faccia carne? Ha senso? No, non serve. L'incarnazione non serve. E lo diciamo anche, che so, nel preconio pasquale, no? Nel preconio pasquale, che è una specie di canto di Miriam, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa. Cioè, noi guardiamo al Redentore e apprezziamo così tanto la bellezza, la grandezza di Gesù che ci ha redento, morendo sulla croce, attraversando la flagellazione, la morte, risorgendo, e andiamo da Adamo e diciamo: Adamo, grazie. Grazie che ti sei sacrificato a peccare, no? Grazie perché grazie al tuo peccato noi abbiamo ricevuto un così grande Redentore, ma non c'è stata colpa più felice, felice colpa, che ci hai meritato così grande Redentore. Ma noi ti dobbiamo fare una statua, non d'oro, noi ti dobbiamo fare grazie, Adamo, grazie. E Adamo dice: ma guarda che non ci avevo tanto pensato, però se me lo dici ritorno a peccare di nuovo, capito? Perché così vi merito tutti i redentori che volete. Bene, abbiamo pensato tutti così. La stragrande maggioranza del popolo cattolico continua a pensare così e morirà pensando così. Ma questo è sbagliato. E io non voglio morire pensando così, perché mi falsa tutto il cristianesimo. E io voglio morire da cristiano. Voglio morire, cioè, vivendo del sapere che Gesù di Nazareth mi ha comunicato, e per comunicarlo è morto in croce per me. Allora, detto in termini tecnici, tu che sei teologa, questo di cui stiamo parlando è il cristocentrismo obiettivo, che è stato scoperto dalla teologia del XX secolo e che il Concilio Vaticano II ha ingerito dentro i suoi testi e rilanciato nel mondo. Quindi noi abbiamo una teologia che attraverso la conoscenza scientifica ha scoperto tante cose, ma tantissime cose. Leggete la Dei Verbum è una liberazione della verità di Dio dall'idea di una rivelazione come informazione, una rivelazione intellettuale, dall'idea anche di una fede come che io credo in alcune cose di cui sono informato su Dio. La rivelazione cristiana non è come la rivelazione musulmana. La rivelazione musulmana è concentrata sul Corano. La nostra rivelazione è concentrata sul Nuovo Testamento, a partire dal quale leggiamo le antiche scritture. Qual è la differenza tra le scritture del cristiano e il Corano, che pure sono scritture? La differenza è abissale. Il Corano è stato scritto da Dio e come una lettera è stata mandata dall'arcangelo, tramite l'arcangelo Gabriele, a Maometto. Ecco qui, è come il libro che mi è stato consegnato. Uno l'ha scritto, va là, io lo leggo e so che cosa c'è scritto. Ebbene, le nostre scritture non sono così. Le nostre scritture è come, adesso c'è la registrazione e poi li trascrivo in un testo. E in questo caso l'analogia, la registrazione della voce di Michele, chi è? È l'evento di nostro Signore Gesù Cristo. Dio ha parlato a noi uomini dentro fatti, vicende umane, dentro una storia concreta, dentro una carne. È la carne di Gesù che ci parla di Dio, non il testo scritto. Perché se io leggo il testo e penso che la rivelazione sia questa, no! Questo testo è rivelazione in quanto corrisponde all'atto rivelativo, che è la storia di Gesù, che è la persona di Gesù. Gesù non è il testo, Gesù è una persona vivente. Il testo mi serve per rendere ragione della vita. di Gesù. Queste cose sono state scritte perché voi crediate e credendo abbiate vita e gioia in Lui. Per cui la mia fede non è che io credo a informazioni, a dottrine, dice le so a memoria, imparo il catechismo. La mia fede è seguire Gesù. Questa è l'umanità in cui io mi compiaccio. Io credo negli esseri umani. Allora, per dirla tutta, ebbene, la mia fede cristiana in Dio non è che io credo in Dio, ma è che io credo ciò che Dio crede di me. E che cosa crede Dio di me? Gesù, il suo figlio Gesù, l'umanità di Gesù, e dice: seguite Lui. La fede cristiana è credere che Dio in Gesù mi promette che se seguo Gesù e divento umano come Lui, io sarò felice, io sarò nella gioia, io sarò nella salvezza e io porterò gioia, salvezza, pace al mondo intero, perché sarò umano come umano Gesù. Ecco perché il cristianesimo interessa a tutti, anche chi non crede, anche chi non crede in Gesù, figlio di Dio, può essere interessato al cristianesimo, come De André, che non credeva nella divinità di Gesù, ma chi lo criticava? Che durante gli anni 70, mentre loro facevano la rivoluzione dentro le università, dentro le fabbriche, lui scriveva la buona novella e se ne andava lì pur attingendo ai Vangeli apocrifi, i 10 comandamenti, il comandamento di Tito, parlava di Maria, Gesù, ma che stai facendo? Noi facciamo la rivoluzione. E De André dice: non c'è rivoluzionario nella storia dell'umanità, ieri, oggi e sempre, se non Gesù di Nazareth e la sua umanità, perché l'umanità di Gesù è inumana, dove inumana non vuol dire disumana, inumana vuol dire è l'umanità che veramente raggiunge livelli di perfezione a cui noi dobbiamo tendere. De André puntava ad essere umano come umano Gesù. Lasciamo stare i motivi per cui non credeva nella divinità di Gesù, avrà avuto i suoi motivi, no? Come tanti altri, ma una cosa è certa, il cristianesimo interessa tutti e deve diventare, ritornare a diventare, no? Provocazione di esperienza di vita umana per tutti. Questo vi fa capire la grande rivoluzione che Papa Francesco, no? Insieme, in continuità con gli altri papi, perché io immagino che voi abbiate sentito continuamente, insistentemente parlare Benedetto XVI della gioia, della gioia, la gioia, la gioia. Cioè, la gioia è la categoria che interpreta la bellezza umana nel mondo. Dove c'è gioia c'è un'umanità bella e buona. Dove c'è tristezza, dolore, angoscia, disperazione, c'è un'umanità che rischia il baratro, l'abisso di uno che si impicca pur avendo tutto, perché mangi, bevi, consumi, d'accordo, ma poi ti stufi e ti annoi, come dice Angelina Mango, la noia, no? Ha vinto il Festival di Sanremo, dico la gioia. Quindi in continuità con San Giovanni Paolo II, i papi del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha dato, come dire, una marcia, un'accelerata. Perché? Ma perché i tempi si stanno accelerando. Guardate che in questi 10 anni del pontificato di Papa Francesco, no? Non sono passati 10 anni, ne sono passati 100. Perché c'è un'accelerazione temporale. Dopo il 1980, no, il crollo del muro di Berlino, l'89, no? Al 2019, quanti anni sono passati? Dall'89 al 19, facciamo il calcolo matematico? 30 anni, davvero? No, no, no. Se voi andate a prendere i 30 anni che sono passati dal 1870 al 1900 e li ponete accanto ai 10 anni, ai 20 anni che sono passati dal 1900 al 1920. Voi non potete dire che dal 1900 al 1920 sono passati 20 anni con la stessa misura dei 30 anni del 1870 al 1900. No, no, no, no. Perché dal 1900 al 1920 sono passati migliaia di anni. Perché? Perché nel 1900 Max Planck scopriva i quanti. Nel 1915 Albert Einstein elaborava la teoria della relatività generale. E queste cose qui accelerano i tempi. Adesso che viene la quarta o la quinta rivoluzione, che cavolo, quantistica. Adesso che avremo i computer quantistici, adesso che avremo il metaverso, quando accadrà sto metaverso, che potrebbe essere la più grande sciagura dell'umanità, il paradiso, finalmente il paradiso in terra, il paradiso che noi non cerchiamo più proiettandoci nell'oltre dopo la morte, ma lo vogliamo in terra, ebbene il metaverso costituirà un paradiso. E Emanuele Severino dice: questo paradiso della tecnica sarà l'inferno degli umani. E forse da lì, quando attraverseremo in questo paradiso della tecnica il nostro vero inferno, forse lì ci sarà, come dire, un atto di autocoscienza, dice: no, questa cosa qui no, dobbiamo ritornare per il futuro al passato. E al passato chi trovi, con tutto il rispetto? Nel passato trovi già tutto il futuro. È il nostro Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è ieri, oggi e sempre, e Lui viene sempre, e Lui verrà, no? Allora, il cristocentrismo obiettivo che la teologia del XX secolo ha scoperto, insieme alla rivelazione come storia e così via dicendo, ma se il popolo non lo digerisce, ma è certo che il popolo non lo può digerire, se dice il cristocentrismo obiettivo, dice questo centrismo obiettivo, ma faglielo assaporare, anzitutto il cristocentrismo obiettivo vuol dire quello che sta facendo Papa Francesco: tutto deve essere riportato al Vangelo, tutto deve essere riportato al Vangelo e a ciò che il Vangelo, con la semplicità di un linguaggio popolare, ci ha detto, perché il primo grande teologo, no? Pop teologo, è stato Gesù, perché Gesù parlava del regno di Dio. E come parlava del regno di Dio? Facendo astrazioni teoriche? No, Gesù, quando parlava del regno di Dio, anzitutto non citava la religione. Quando voi leggete nei Vangeli che Gesù parla di religione, cioè di tempio, di legge, di comandamenti, lì noterete che sta parlando con scribi e farisei, con gente che lo vuole mettere in fallo, come si dice lì, vuole vedere se Gesù la sa la cosa, perché se tu non sai la legge, i profeti, allora come fai a presentarti come dicono il Messia? Ma Gesù interloquisce e fa capire che lui le sa, no? Le sa, anzi le interpreta adeguatamente. Tutta la legge e tutti i profeti sono sintetizzabili in un unico comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Siccome Gesù lo dice, ma interloquendo con loro, ai cattolici cristiani pare che il comandamento di Gesù sia quello lì, ma non è quello lì. In 14 anni di episcopato ho sempre chiesto: qual è l'unico comandamento di Gesù? E tutti mi hanno sempre risposto: ama il prossimo tuo come te stesso. Non è quello lì, perché il popolo non lo deve sapere. C'è scritto nel Vangelo qual è il comandamento di Gesù. Perché questi qui ancora sono fissati su ama il prossimo tuo come te stesso, che è un comandamento vecchio? Quello è il comandamento che sintetizza la legge e i profeti. Ma la legge e i profeti si trovano nell'Antico Testamento, non nel Nuovo Testamento. Io vi do un comandamento nuovo. E il mio comandamento nuovo sicuramente porta a compimento quello antico, ma è nuovo, ve lo sto donando io. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. allo specchio di questo comandamento, il vecchio comandamento si capisce di più, ma si deve riscrivere, riformulare, non più ama il prossimo tuo come te stesso, ma ama il prossimo tuo, due punti, ecco te stesso, perché tu sei l'amore che do, come dice Herman Meta in una canzonetta di Sanremo intitolata Vietato morire. Ricorda, figlio mio, all'uomo che diventerai, che non sarà mai più grande dell'amore che dai. Mi spiego? Allora l'interrogativo che ci stiamo ponendo, no? Per parlare ai giovani, come deve essere l'amore per essere come deve, è importante, perché? Perché come dice Marco Mengoni in una canzone che adesso canteremo, no? Mi pare l'essenziale, con cui ho iniziato la mia carriera pop teologica, in quel famoso incontro dove c'erano su 300 persone e ho citato Benigni, no? E ho contato la canzone di Noemi, poi gli ho detto, vedete ragazzi, che davvero la metafisica è concreta, no? Perché si interessano di metafisica anche le canzonette di Sanremo. Chi ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno? Quell'anno, nel 2013, aveva vinto Marco Mengoni con la canzone L'Essenziale, no? Con la canzone L'Essenziale. E ho detto, vedete, l'essenziale è un termine della metafisica. Che cos'è l'essenziale? Che cos'è l'essenza? L'essenza, Aristotele dice, è ciò per cui una cosa è quella che è. Ciò per cui una cosa è quella che è, no? Ciò per cui una cosa è quella che è. E ho detto ai ragazzi, ma a voi che ve ne frega che una cosa è quella che è? Perché gliel'ho fatta ripetere. Però se tu ami una ragazza, se una ragazza ama te, e tu sei interessato a sapere se davvero questa ti ama, l'essenza dell'amore. Perché come dice Marco Mengoni in questa canzone, non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote, stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, e da sempre sei per me l'essenziale. Che bello! Oh, l'essenziale, l'amore. Il mondo cade a pezzi, le guerre dappertutto, tutto è in frantumi e noi sentiamo il bisogno di ricomporre, no? Questo vaso rotto, lo dobbiamo ricomporre dentro gli ideali di giustizia, di pace, di amicizia, di fraternità, no? Che risuonano l'emozione più profonda del nostro cuore, perché noi siamo fatti per amare. Come dice Neck, siamo fatti per amare, nonostante noi. Siamo fatti per amare, nonostante noi. Come dire, noi esseri umani siamo fatti per amare. L'unica cosa che non ci riesce è l'amore. Cos'è sta cosa? E il mondo cade a pezzi. Siamo fatti per amare e non riusciamo ad amarci. E ci odiamo e ci detestiamo. Allora il Padre Eterno squarcia il cielo e dice, io credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani, io ci credo negli esseri umani, perché gli esseri umani io li ho creati a mia immagine e somiglianza, io li conosco gli esseri umani. Gli esseri umani non siete voi che vi odiate, che vi fate guerra, che vi sfruttate, che vi mercificate, che vi dominate, che vi abusate, non siete gli esseri umani, voi così, io credo negli esseri umani, perché sono come me gli esseri umani, li ho creati a mia immagine e somiglianza. Vedete il sapere della fede come deve essere diffuso? Finché un sapere della fede, quello del cristiano, convince il mondo che gli esseri umani sono come Dio, gli esseri umani non verranno ridotti a macchine, a macchinette. Il riduzionismo delle scienze non ha luogo, perché l'essere umano è irriducibile. Cosa c'è di irriducibile nell'essere umano? è il fatto che Dio lo ha generato, non l'ha fatto come noi facciamo l'androide, non lo ha prodotto. L'essere umano è generato. E perché è generato se l'essere umano è creato come tutte le altre creature? L'essere umano è creato nel generarsi eterno del Figlio dal Padre. Per cui Gesù è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, e l'essere umano è creato nel generato. Essendo creato nel generato, vive in ogni essere umano, in tutti gli esseri umani, non solo nei cristiani, in tutti gli esseri umani vive in ogni essere umano un'appartenenza di Dio. Dio stesso è presente come in una sua scintilla, e basta, no? Perché basta una scintilla di Dio per rendere un essere umano infinito, per rendere un essere umano come Dio, no? E però dobbiamo cambiare prospettiva. Se cambi prospettiva e ti metti nella prospettiva di Gesù, capisci che l'amore per cui tu sei fatto, non sei tu, tu sei fatto per amare, ma l'amore per cui sei fatto non sei tu. L'amore è come l'acqua, che non è la spugna, ma la spugna è fatta per assorbire l'acqua. Per cui siamo fatti per amare nonostante noi. E poi fa: fatti avanti amore, fatti avanti amore, fatti avanti amore, e fatti avanti amore, fatti avanti amore. Cioè, se io sono fatto per amare, l'amore si deve fare avanti. Perché io sono la spugna, appena l'amore, l'acqua si fa avanti, io me l'assorbo. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, e la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti, Dio del cielo, Dio amore, Dio solo e sempre amore. Mi spiego? Allora tu capisci che se vieni a sapere che Dio è solo e sempre amore, questa affermazione, questo sapere diventa gusto della tua vita, perché tu impari chi sei tu, gnoti sauton, conosci te stesso, genoion, oios ei, diventa ciò che sei, ma lo devi sapere chi sei tu. Tu non sei semplicemente questa canna sbattuta dal vento, tu sei infinito, tu sei un'immensità, tu sei divino, tu sei immagine e somiglianza di Dio, e allora diventa quello che sei. Perciò hai bisogno di Dio, di sapere come è fatto Dio, perché il tuo cammino umano, no, giunga a lui nell'amore. Per cui quando Mengoni dice l'amore, amore, amore ha vinto, vinci, vincerà, esprime il cristianesimo. Perché? Perché l'amore che si deve fare avanti non è quello che costruisco io ed elaboro io, ma è ciò a cui io obbedisco per essere libero. E adesso la cantiamo questa canzone, perché vedete, attenzione che cosa ho detto, l'assurdità che ho detto. Ho detto che io divento libero se obbedisco al comandamento dell'amore. L'amore si fa avanti, io sono fatto per amare, cioè sono fatto per quest'amore. Se obbedisco a quest'amore, sono finalmente libero, sono finalmente salvo, sono finalmente nella gioia. Straordinario questo. Allora, questa cosa qua che vi sto dicendo è teologi, no? È teologia, è riflessione, pensiero critico su ciò che il sapere della fede ci ha comunicato. Però lo stiamo, diciamo, elaborando maieuticamente, lo stiamo portando fuori da un grembo che ha a che fare con il linguaggio giovanile, con la lingua giovanile, con una canzone di un autore che magari no, non è così, però è amatissimo dai giovani, tutti vanno appresso a lui, tutti seguono lui, tutti lo sentono lui, cioè lo ascoltano e diventano i nuovi maestri del pensiero questi, senza nemmeno elaborare pensiero, ma producendo canzoni belle che attraverso la bellezza della melodia creano emozioni, no? Danno impulso all'immaginazione, come diceva Platone. Platone dice che la musica è una legge morale che governa l'universo, dà ali al pensiero, impulso alla gioia, fascino alla tristezza, slancio all'immaginazione ed è energia e forza di tutte le cose, la musica. Per cui non è differente che tu dici, mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che, oppure dici, mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che. È diverso, ma accade anche con le canzoni di chiesa, dove carità e amore. Vedi? Ma attenzione, provate a notare questo. Se io dico dove carità e amore, poi voi dite lì c'è Dio, ma prima di dire lì c'è Dio, fate caso, dove carità e amore, lì c'è Dio, è già stato detto dentro. Fateci caso. Se invece dov'è carità e amore, lì c'è Dio, sì, l'ho sentita, continuo a sentire. Ma dici, ma come diciamo noi? Dov'è carità e amore? Già il fatto che tu cantilli nell'omelia e venga incontro, magari si cantillasse nell'omelia, perché la cantillazione fa parte del linguaggio retorico del parlato, l'hanno utilizzato in tempi antichi tutti, gli ebrei sicuramente, ma anche i monaci, quando parlavano, i priori parlavano ai loro monaci, nel momento in cui volevano dire una cosa importante, cantillavano. E perché noi cosa facciamo nella liturgia? Ti ringraziamo Padre Onnipotente perché attraverso il tuo Figlio, Signore, ci hai comunicato. Mi spiego, la cantillazione non è cantare. Adesso noi cantiamo perché? Perché c'è un accompagnamento strumentale. Ma se io canto a cappella non sto cantando, sto cantillando, e la cantillazione dà, come dire, sfogo alla melodia, che è come l'aratro, no? Che fa i solchi, sì, che quando la parola come seme entra in profondità nel solco poi dà i frutti buoni. Dove carità e amore, poi uno dentro di sé, io mi fermo per istinto, riflesso condizionato. Il cuore dice, canta, lì c'è Dio, e poi dice, lì c'è Dio, perché tu, come osserva Sant'Agostino, non puoi cantare una strofa se mentre stai per cantarla già non la ricordi che la canterai, capito? E già non la ricordi come il canto che viene anche dal futuro, no? Dal futuro, sicché diceva che il tempo è una distensione dell'anima, come accade quando noi cantiamo una canzone. Forza, forza. La pop theology, per esempio, il discorso è così, no, non amerebbe momenti di pausa, di intervallo. Sarebbe interessante poter creare una sintonia tra l'oratore che fa pop theology e quelli che cantano, per cui questi qui sono loro stessi talvolta che danno il ritmo, la melodia in una canzone e chiedono all'oratore di intervenire su questa canzone piuttosto che un'altra, per cui il discorso si fa insieme. Vengono gli eroi, se gioco si fa duro e da giocare. Sostengono gli eroi, e atti i loro voi. Se il gioco si fa duro e da giocare. Scambiano offese con il bene. Succede anche a noi di fare la guerra, ambire poi la pace. E nel silenzio di noi annulla ogni tuo singolo dolore, la prezza. Quello che non ho saputo scegliere, mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a creazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Sara, sei tutta la mia vita, una quattordicenne, non c'è. Io morirei per te, no? Io ti amo, ti amo, sì. Appartengono anche a te. C'è amore senza desiderio? Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Si allontana dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Torno all'origine. E torno all'origine. Torno a te che sei torno a te che sei per me. L'essenziale. L'essenziale. L'amore non toglie le logiche. Vedete, l'amore non toglie le logiche, perché l'amore è una logica in sé. L'amore fa vedere, l'amore ti fa vedere le cose come stanno, non che ti condiziona. Appartengono anche a te. Tornerò all'origine. Il mondo di oggi dice fate l'amore non la guerra. Fate l'amore come volete, con chi volete, con quanti volete. L'importante è che fate l'amore, capite? Perché serpeggia dentro la società dell'ipermercato un altro comandamento, no? Perché, vedete, Satana, lo dobbiamo pronunciare, Satana. Satana si chiama anche Lucifero, no? Lucifero, cioè portatore di luce, cioè questo satanasso, tra gli angeli era anche uno, insomma, più capace, diciamo. E poi lui dice, ma io sono Lucifero, io la luce. E allora Satana è sempre in lotta nell'esperienza cristiana contro Gesù, no? Lui è l'anticristo, no? L'anticristo. Qui dice, qua devo fare qualcosa, no? Il comandamento di Gesù è troppo bello. Questo comandamento è troppo bello, questo comandamento rischia di mandarmi all'inferno, no? Nel senso di togliermi fuori. Perché se gli esseri umani si convincono di seguire il comandamento di Gesù, io che faccio il lavoro contrario, non ho più lavoro. Non ho più il lavoro, se perdo il lavoro sono rovinato, capito? E allora che fa? Dice, adesso do pure io un comandamento. Gesù è stato furbo, invece di dare 10 comandamenti, come Mosè, sapendo che quelli del 21° secolo non li avrebbero ricordati nemmeno uno, 10. È stato furbo Gesù, dice, uno solo ne ha dato, guarderà, uno solo. Immaginando che lo ricorderanno. Noi stiamo dicendo che, ahimè, non è che ce lo ricordiamo tanto, l'unico comandamento di Gesù, anzi, pensiamo che sia un altro e non sia questo. E allora Lucifero che fa? Dice, sì, Gesù è stato furbo e ha dato un solo comandamento. Ma io sono più furbo di lui, perché il suo comandamento è troppo lungo. Amatevi gli uni gli altri, virgola, come io ho amato voi. Ma vedete quanto è lungo? Allora io li acceco tutti. Come dici, così parlò Zarathustra, Nietzsche. Io non sono luce, dice Zarathustra. Io non voglio essere luce. io sono bagliore, fulmini della mia salvezza, accecateli tutti. C'è un'operazione di accecamento universale sulla cosa più preziosa che abbiamo, gli esseri umani. Qual è la cosa più preziosa che abbiamo e siamo, gli esseri umani? L'amore. Credi in quest'umanità, dice Vecchioni. Anche restasse un solo uomo, chiamami solo amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Allora se l'amore è davvero, come stiamo dicendo, l'essenziale, un diavolo che lavora contro Gesù Cristo e deve procedere all'accecamento universale, su che cosa ci deve accecare? Proprio sull'amore. Se è l'amore che salva, se io acceco tutti gli esseri umani sull'amore, raggiungo l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Appunto, quella del disastro universale a cui il diavolo vuole portare. Mi dà fastidio introdurre la questione del diavolo, ma io ho appena scritto un lungo articolo sul Quotidiano del Sud intitolato Povero Diavolo, perché concludo lavorando sul Dr. Faust, no, che fanno i patti del diavolo, anche Dorian Gray che fa il patto con il diavolo, ma anche è stato citato Berdiaev, ma anche Bulgakov, no, Margherita, il maestro è Margherita, e così via dicendo. Però alla fine dico, fare patti con il diavolo è un disastro perché ti porta alla morte, però i conti col male nella vita bisogna farli, ma sul male noi siamo più che vittoriosi. Niente e nessuno ci può separare dall'amore di Dio, nella persecuzione, nella fame, nel pericolo, nella nudità, nella spada, perché in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di Cristo che ha vinto la morte per noi, ci siamo. Quindi se Gesù con la sua risurrezione ha già vinto tutto il male del mondo, povero diavolo, perché il diavolo, no? Che fa? Lavora contro Cristo, ma lavorando contro Cristo, in fin dei conti, lavora per Cristo, perché il male è stato sconfitto, questa certezza della fede. Il male è stato sconfitto, per cui il diavolo è destinato al suo inferno a starci possibilmente da solo, perché la salvezza cristiana si rivolge a tutti gli uomini. Ma in questa operazione di accecamento sull'amore, che fa il diavolo? Dice no, il comandamento di Gesù è troppo lungo, io lo accorcio, metto il punto dove c'è la virgola e vi do un comandamento che assomiglia a quello di Gesù, è simile ma non è quello di Gesù, anzi è l'esatto opposto: amatevi gli uni gli altri, punto. Pensateci voi come Gesù dice, come io ho amato voi, e ti dà la misura dell'amore e ti dice o ami come io ho amato te oppure amore non ce n'è. Il diavolo ci dice amatevi gli uni gli altri, come? Pensateci voi. Ma capite che vuol dire che l'essere umano stabilisce lui come amarsi? Ecco, perciò dicevo, Papa Francesco sta riportando tutto al Vangelo. Come ci si ama? Ebbè, come Gesù ha amato noi, no? E che cosa ci ha detto Gesù? Tu non puoi vivere una fede alienante, eh? Prendiamo l'Amen di Gabbani. Cattolici, voi siete astemi incomitivi, per l'infelicità, la messa ormai è finita, figli, andate in pace, cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace, e allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen, amen, dal ricco e Luca ascetico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen, e tutta sta marea di cattolici che vanno in chiesa la domenica e fanno amen, amen, ascoltaci Signore, poi la messa è finita, andate in pace, ognuno fa i cavoli suoi, mette, che so, 50 centesimi nel cestino e dice: ma 50 centesimi sono 1000 lire, quando c'erano le lire mettevo 100 lire, 200 lire, però poi la messa è finita, andate in pace, ciao amico, andiamo al bar, che fai? Un sigarette, 5 euro, 7 euro, sì, dai, cioè, 20 euro, 50 euro, 30 euro, dice, la domenica 30 euro al bar, giustamente con gli amici, a prendere il caffè, così via dicendo, mentre tutto questo senso di partecipazione della comunità con 50 centesimi, no, di fronte al prete che magari aveva detto, che so, abbiamo bisogno di raccogliere dei fondi per comprare l'auricolare per permettere a una ragazza, sto parlando di fatti concreti capitati, no? In mesi non si è trovato gente per raccogliere 500 euro e far sentire bene una ragazza un po' di quelle che purtroppo ci sono talvolta nelle chiese, un po' ragazzine psicolabili e così via dicendo, invece per comprare il vestito alla Madonna, no? A questa statua che non è nemmeno una statua, che è una struttura lignea, così come dice, ci vuole il vestito 5.000 euro in 3 giorni. Cioè 5.000 euro in 3 giorni per comprare il vestito a una statua, che non è nemmeno una statua. 500 euro non si è potuto trovare nemmeno in 2 mesi per comprare l'auricolare. Allora qui c'è qualche cosa che non va, no qualche cosa, c'è tutto che non va. In questa esperienza di un cattolicesimo convenzionale, che dice le preghiere, Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà se coincide con la mia, se no non se ne parla, perdonami che io perdono, ma io non ho perdonato, non perdono e non perdonerò, è sempre lì a menarla con queste preghiere, Padre nostro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ho capito. Dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti il nudo, i soldi che hai sono tuoi, goditili e falli godere agli altri, perché c'è un modo grande per goderti i soldi che hai, che gli altri attraverso i tuoi soldi abbiano gioia e felicità, perché Gesù ha detto, e questo è un sapere della vita umana, non un sapere della devozione religiosa, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E se tu ti guardassi allo specchio, nel silenzio anche di un monastero come questo, e riuscissi ad entrare nelle profondità, nelle fibre più profonde della tua anima, questo lo capisci, che i soldi che stai accumulando in banca, sì, d'accordo, ma alla fine che gusto hanno, che senso hanno? E Gesù te l'ha detto, l'attaccamento al denaro è l'origine di tutti i mali. Cercate di costruire tesori dove la tignuola e la ruggine non li consuma, perché nell'ora della vostra morte verrete giudicati, non come avete sempre immaginato, vado dal Padre Eterno e il Padre Eterno dice: tu hai fatto questo, non hai fatto questo, vai anni al purgatorio, vai qua là. Non sarà così, sarà come vi dico io, meglio, che poi non sarà nemmeno come vi dico io, ma secondo me, come vi dico io, è sicuramente più vicino, no? A come effettivamente sarà. Sarà che nella tua vita Gesù ti ha detto come devi fare per andare in paradiso, e ti ha detto: dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti il nudo e vai a trovare il disperato, perché facendo così accogli i migranti, dice Papa Francesco, facendo così tu la luce che hai dentro il tuo corpo, il tuo vero corpo che sei tu, cioè il corpo sentito, il corpo mio, questo corpo che mentre io sto parlando vibra in me e vi è fatto vibrare proprio dalle cose che io sto dicendo, dai sentimenti che sto vivendo, dalla passione che ci sto mettendo nel dirvi le cose. Ebbene, questo corpo è pieno di luce perché è creato a immagine e somiglianza di Dio, creato nel generato, abbiamo detto. Ebbene, questa luce in tutte le opere di misericordia corporale e spirituale che io faccio si ingrandisce di luce, luce più luce, sempre più luce, Licht, mehr Licht. Così è morto Goethe, no? E tutti dicono: ah, inneggiava all'illuminismo. Ma quale illuminismo? Magari voleva vedere un po' di luce, perché le cose di qua, luce più luce, alla tua luce vediamo la luce, sempre più luce. E quando io morirò, a un certo punto questo corpo luminoso attraverserà con una velocità superiore alla luce tutte le dimensioni della realtà di questi multiversi che si stanno espandendo e giungerò in quella realtà che chiamiamo paradiso, no? E dentro nella luce, mica uno mi dice fermati qua, tu vediamo qua, no, non c'è bisogno, perché da luce in luce, e la luce è un continuum, no? Non è un continuum, quella luce del paradiso è già la luce che io sto vivendo mentre il mio corpo si illumina non solo di immenso, ma di opere di carità corporale e spirituale, per cui io sfreccio con la morte, no? Da luce in luce. Ma se il mio corpo non ha fotoni, perché a poco li ho persi in una vita combinata così, nell'egoismo di chi pensa sempre a se stesso, di chi ritiene di poter fare anche la beneficenza, no? E poi ostenta tutto sto lusso, va a Como e si compra, va negli Stati Uniti e si compra, fai quell'altro là, e poi dici sì, 100.000 euro. Questo è detto per tutti, ma anche per i cristiani. La carità è la luce, ma tu potresti anche avere, dare tutti i tuoi averi ai poveri e non avere la carità, lo senti Paolo? Ecco la teologia popolare, perché non dobbiamo saperlo questo? Potrei anche dare la mia vita a bruciare e non avere la carità, perché lo faccio con orgoglio, lo faccio con, no? Capite? Allora, allora abbiamo bisogno di rispondere, ognuno può rispondere per sé alla domanda: come deve essere l'amore per essere come deve? La domanda che ci sta martellando. Per noi cristiani l'amore deve essere come quello di Gesù. E Gesù che cosa ha fatto? Mi ha parlato di Dio, mi ha comunicato il volto santo di Dio. Come? Incontrando i fratelli, amando i fratelli. Lazzaro, vieni fuori! Io sono la risurrezione e la vita. Io sono la luce del mondo. Tu, cieco nato, riacquista la vista, vedi? Io sono il Dio che perdona i peccati, no? Paralitico, alzati e cammini. E non c'è rivelazione cristiana che non sia, come ci è stato detto dal Concilio Vaticano II, verbis gestisque, parole e fatti. Com'è che abbiamo ridotto, cantiamo Amen. Cominciamo a fare. Com'è che abbiamo ridotto questo cattolicesimo in un cattolicesimo sempre meno cristiano e sempre più religione atea, che chiamiamo cattolicesimo convenzionale? Ascoltato il cattolicesimo convenzionale in questa canzone. Tu potresti pensare che questa che una canzone di Sanremo parli del cattolicesimo convenzionale e ci critichi. Astegni in come ti dico, forza, dai. Alla porta arrivata lì, nascondono gli stessi giorni, sotto la porta, sotto la porta, sotto la porta. Allora, alle porte i barbari. Aspetta, tu continua, cioè mentalmente però, dico, alle porte i barbari, nascondi provviste e viveri. Capite che cosa sta dicendo? Alle porte i barbari, cioè immigrazione, tutti, tu mi raccomando, custodisci tutto quello, i tuoi possedimenti, i tuoi averi, i tuoi viveri, li metti da parte, vai. E i trafficanti, i rotani, e i versi, e i bandani, sono moda, sono moda, sono trafficanti d'organi, perché fa? Un visionario mistico all'università, un visionario mistico, disse l'utopia ci salverà, i filosofi, l'utopia ci salverà. Astemi come tirico per l'infelicità, astemi come tirico, messa mai finita figli andare. La messa ormai è finita, di chi sta parlando? Solo dei cattolici, solo noi abbiamo la frase. Il senso di nuovo tutto tace, e allora non ti popolo, che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con una dal ricco e Luca scetico, al povero di spirito, dimentichiamo tutto con una... Preghiamo Padre Onnipotente che questi migranti che vengono sulle nostre coste possano trovare amicizia, fraternità, e tutti rispondono: ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, amen. Ti preghiamo che tutti quelli che soffrono possano trovare gente che vadano a trovare, amen, amen, amen, amen. Ma tu ci vai là o no? Che dici amen? Che dice ascoltaci Signore? Dio sta parlando a te. Quando fai la preghiera, tu ti rivolgi a Dio e Dio parla a te. Vai tu dall'ammalato, ti metti lì vicino, lo aiuti a risollevarsi da questo dramma. Ci sono famiglie con ammalati di SLA che avrebbero bisogno che una comunità cristiana intera si mettesse accanto a loro per dare un po' di sollievo anche dal punto di vista fisico, ma spiritualmente. E tu che sei un gruppo di preghiera, sempre in chiesa a pregare, ma perché non vai da un ammalato di SLA? Che Gesù Cristo è pure dentro di lui come sacramento, perché gli ammalati, i poveri, i sofferenti sono sacramento di Gesù, dice Papa Francesco, come sono sacramento di Gesù tutti gli altri sacramenti. E perché tu nel tuo cattolicesimo convenzionale a stema, in coma etilico, sei in uno stato comatoso, perché non ti muovi, preghi, preghi, preghi, amen, amen, amen, ma non ti muovi, cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. Appartieni a un cattolicesimo convenzionale che è la stessa cosa delle logiche dell'ipermercato. Nella seconda frase, invece, la seconda strofa parla dell'ipermercato. La messa ormai è finita lì, l'offerta è finita, forza! Il portamento atletico, il trattamento estetico. Portamento atletico, trattamento, ai seri sono di moda, tutti a fare fitness, tutti si fanno, che so, il naso, le tette, e tutto. Con l'anno del monaco, la barba del filosofo, muova ancora, corpo di corpo. Più forte la voce. Gesù si è fatto agnostico, i killer si convertono. Gesù si è fatto agnostico. Santa, la folla in coda negli store dell'inutilità. La folla in coda negli store dell'inutilità. La dei pace, cada dentro che il senso di nuovo tace. E allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con una... I ragazzi questa canzone la sanno e la cantano. Dal ricco e Luca scetico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con una... Qui dentro c'è la critica all'alienazione religiosa di Marx, Freud e Nietzsche. Soltanto che diversamente da Marx, Freud e Nietzsche, che i giovani non li conoscono, grazie a Dio, non li conoscono, figurati te, perché è vero che non conoscono San Tommaso e Sant'Agostino, ma non conoscono nemmeno Freud, non conoscono nemmeno Marx, non conoscono nemmeno Nietzsche, ma conoscono Francesco Gabbani. E se Francesco Gabbani dice: voi avete costruito una religione alienante in occidentale scarma, se la prende anche con il buddismo, no? Queste le religioni, no? Dico, se voi avete costruito l'alienazione cos'è? È appunto questo che viviamo. Dice, guarda, la vita mi opprime, sono stanco. È il problema di qua, è il problema di là, però finalmente viene la domenica, io entro in chiesa, in quell'ora però io mi sento bene, no? Il sospiro della creatura oppressa, l'anima di un mondo senza cuore. Questa è una frase di Marx che critica la religione come alienazione, per cui tu vai lì, ti droghi, ti fai l'anestesia, no? È la stessa cosa che dicevi tu, cioè l'estetizzazione del cristianesimo. Com'è bello! Pensate a Natale. A Natale tutti vanno al presepe. Tutta questa folla di cattolici vanno al presepe, guardano il presepe e dicono: ah, che bello! Gli antichi mestieri! E non si vedono più il calzolaio. E la cosa. Oh, che bello! Ma quale bello! Il presepe è bello! È bello perché è dorato, perché di Caltagirone, qual è quella cosa di Caltagirone? Di ceramica, di Caltagirone, è il presepe napoletano, perciò è bello, sì, e te lo metti nella tua casa giustamente dorata, in tutti gli angoli. Io voglio un presepe, uno più bello dell'altro, così ti giri i presepi a Natale, come sei cristiano tu, che non vai nemmeno fuori a vedere i presepi nelle chiese, perché tu hai trasformato la tua casa in un bellissimo presepe, con tanti piccoli presepi, come fanno le moniche carmelitane, poi la notte girano per tutta la notte a vedere i presepi. Il presepe è una stalla. E questa stalla è una schifezza. Perché è fuori dalla città, fuori dalle relazioni sociali. E c'è il bue, l'agnello, l'asinello, e c'è la paglia sporca della cacca e della pipì degli animali, quella utilizzata dalle mani purissime e santissime di Maria di Nazareth per fare un pagliericcio. Prendendo quella meno sporca possibile, a Gesù di Nazareth, il figlio di Dio nella carne umana, lì che nasce in un pagliericcio puzzolente, al freddo e al gelo. Altro che bellezza! Così come la croce. La croce non è bella. La croce è un supplizio, la croce è un martirio, e quella grotta del bambino specchia la croce del crocifisso. Già Hegel introduce certe volte, Hegel, qualche filosofo, per far capire che non sto facendo la predica in chiesa, no? Ma sto dicendo cose importanti, cose serie, perché se Hegel... Togliete le rose da questa croce, l'avete abbellita la croce. L'avete estetizzata la croce, la portate dorata, la portate con l'argento, la portate già alla croce. Togliete le rose alla croce, entrate nel messaggio crudo della croce, un supplizio come quella grotta, che un bambino di Pozzallo mi disse è brutto il presepe. Il presepe è brutto, perché io ho posto la domanda: ma qualcuno di voi vuole nascere come è nato Gesù? Ma perché nessuno di voi vuole nascere come è nato Gesù? Quello alle materne era già scolarizzato, viene da me. Perché tu non vuoi nascere come è nato Gesù? Risposta del bambino, che dice la verità, no? Perché il presepe è brutto. Ma come il presepe è brutto? Abbiamo sempre detto che il presepe è bello. Il bambino è presepe brutto, ed è vero, chi può dar torto al bambino che presepe? Perché non faresti nascere tuo nipote in una grotta come quella di Gesù? Sei così credente, sei così cattolico, sei così innamorato di Gesù, no? Vuoi seguire Gesù, no? Fallo nascere tuo figlio, no? C'è un'unica bellezza nel presepe, un'unica bellezza. È la bellezza difficile del cristianesimo, che l'estetizzazione dominante, no? Non fa riconoscere. Perché? Perché l'estetizzazione dominante, oh che bello il presepe, ha fatto l'anestesia totale al corpo cristiano. Per cui quando un corpo è in anestesia, è in coma, no? Non sente niente. Quindi non sente e non vede e non ascolta la bellezza del presepe. Allora la grotta fa schifo, ma lì dentro accade un'esperienza bellissima. Quale sarà? Ecco, se tu ti avvicini con l'orecchio al bambino Gesù, il bambino Gesù ci dice: senti, in questa schifezza di presepe sono nato io, che sono Dio. Poiché sono Dio, mi espando dappertutto. Quindi occupo tutti gli spazi. Tutte le schifezze presepiali che ci sono nel mondo sono occupate da me. Tu vai via da qui e non ti permettere di far nascere nessuno come sono nato io. Hai capito? Perché la bellezza del mio nascere qui è che tu adesso dovrai vivere d'amore, e devi impegnarti a non far nascere nessuno come sono nato io, perché io sono nato qui per tutti. Nessun essere umano, avendo la dignità di essere umano, deve nascere in una schifezza di presepe. Ma ci avete mai pensato? Ma il messaggio del Natale è questo, eh? Così il messaggio della Pasqua: non mettere in croce nessuno. La croce come dolore del mondo la occupo io, non scendo dalla croce. Qualcuno mi ha proposto: scendi dalla croce, salva tu e salva noi, ma siamo matti. Io per stare sulla croce sono venuto nel mondo, perché finché io sto sulla croce, nessuna croce è disponibile per un essere umano. È stato detto un tempo: occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico: amerai il tuo nemico, non lo metterai in croce nemmeno lui, nemmeno il tuo nemico. Non ucciderai nessuno, non solo l'anima innocente, non devi uccidere. Per cui, se Dio comanda in Gesù di non uccidere l'anima innocente, almeno secondo anche i musulmani, ma secondo voi è possibile che lui abbia ucciso tutti gli innocenti figli primogeniti d'Egitto? Così sta scritto, così c'è scritto là, ma va interpretato nella prospettiva di Gesù. E se tu la interpreti nella prospettiva di Gesù, vieni a sapere che quello che c'è scritto lì non è come te l'hanno insegnato finora. E ogni cristiano deve poter mettersi nella prospettiva di Gesù e convertire il suo pensiero su Dio prima di morire, almeno. Perché quando questo accadrà, diventerai santo in vita e poi probabilmente sarai canonizzato nel futuro. Ma quando ti accorgerai dalla prospettiva di Gesù che Dio non è quel che credi tu, perché Dio è esattamente invece come Gesù te l'ha detto, diventi subito santo. Se Dio mi comanda l'amore come Lui, Lui è l'amore che si deve fare avanti, fatti avanti amore, e quindi fatti avanti amore, fatti avanti amore, fatti avanti, siamo fatti per amare nonostante noi. Allora, per sapere come deve essere l'amore, per essere come deve, allora che cosa faccio io? Io amo come Gesù mi ha comandato, e amando come Gesù mi ha comandato lascio tracce positive nel mondo e resto indimenticabile, non perché mio figlio, i miei nipoti si ricorderanno di me, e no, perché tutti ci ricorderemo di te, perché di San Francesco d'Assisi mica si ricordano, no? Tu dici: ma bisogna essere santi come loro? No, basta essere cristiani esemplari. Tanti nomi sono stati citati, no? Tanti nomi sono stati citati, indimenticabili. Indimenticabile sei quando per le tracce belle che hai lasciato, indimenticabile sei per l'amore che hai sofferto e poi donato, indimenticabile sei per la libertà che offri nel perdono, quando l'altro ha bisogno del perdono tuo e daglielo. Oh, ma mi ha fatto una cosa impossibile, non lo perdonerò mai, perdonalo, dai, per la libertà offerta nel perdono, perché più è imperdonabile, più tu devi perdonare, perché se perdoni ciò che è perdonabile, che perdono è? Il vero perdono perdona l'imperdonabile, se perdono c'è, perdona l'imperdonabile. Indimenticabile sei, perché hai vissuto e non solo vivacchiato. Indimenticabile sei perché nella sconfitta non ti sei disperato. Indimenticabile sei perché vai avanti con coraggio e speranza, che sai che la vita è comunque bella come una danza. Non è che la vita è bella solo nel film di Benigni, d'accordo? La vita è bella come una danza, e bisogna essere indimenticabili per il futuro, nelle generazioni. Se lo sarai è perché hai davvero lasciato delle tracce belle. Ma c'è un'unica possibilità per lasciare davvero tracce belle: seguire Gesù, essere cristiani davvero, cattolici cristiani e non semplicemente convenzionali. C'era una chitarra a mia disposizione per poter la vuoi prendere? e con questa cosa, con questa canzone qui che ho scritto per un musical sulla bellezza, anch'io cerco fondi per poter realizzare il musical sulla bellezza, tutti cercano fondi per fare cose belle, e quindi questa canzone che conclude il musical sulla bellezza dei nostri giovani, io concludo e poi dopo loro canteranno almeno la canzone con cui noi abbiamo iniziato, no? Noi abbiamo iniziato con la canzone Gesù, vi ricordate, di Renato Zero, è vero che io ho recitato e i nostri amici la canteranno. Ecco, siccome poi dopo che ho parlato 2-3 ore tutti quanti filmano me che canto, no? E mettono poi su YouTube me che ho cantato, e giustamente poi qualcuno osserva sempre, ma sempre vai in giro sempre a cantare. Io è da ieri alle 5 e Andrea può testimoniare che sto parlando, è vero? Siamo andati a cena ieri sera, è stato bellissimo, più bella ancora della conferenza che ho fatto, perché ho parlato. Stamattina alle 9 sono venuti a prendermi, è vero, no? E fino ad arrivare qua abbiamo parlato. Poi ho parlato in più di un'ora nella prima parte della conferenza, siamo usciti e con amici abbiamo continuato a parlare. Qualcuno ha detto. Poi siamo entrati e ho parlato finora. Però adesso canto, no? E tutti quanti giustamente riprendono questa roba qua e poi alla fine mica mettono su YouTube tutti i discorsi e le chiacchiere che ho fatto, no? Mettono su YouTube questa storia che ho cantato e poi magari anche qualcuno mi dice: senti, ma vai in giro a cantare, a suonare la chitarra, ma tu sei vescovo, no? Non ti puoi abbassare. Dico, ma da quando mi hanno fatto questa critica, vedete, costruttive, creative, no? Prima suonavo la chitarra, da quando mi hanno fatto queste critiche dico, vabbè, devo imparare a suonare il pianoforte, no? Cosa che ho fatto, così ho imparato a suonare il pianoforte approfittando del Covid. Mi rivolgo al giovane e dico, ma dove sei, dove ti trovi, parla con me, vieni qua, non scappare, rifletti un po' sulla tua vita, no? Sei qui o altrove, dentro te o fuori, tra rumori e banalità e assordanti frastuoni. Indimenticabile sei, indimenticabile sei. per le tracce belle che hai lasciato. Indimenticabile sei per l'amore che hai sofferto e poi donato. Indimenticabile sei per la libertà offerta nel perdono. Indimenticabile sei che trasforma il fallimento nell'attesa di un dono. Indimenticabile sei perché hai vissuto e non solo hai macchiato. Indimenticabile sei perché nella sconfitta non ti sei disperato. Indimenticabile sei perché vai avanti con coraggio e speranza. Indimenticabile sei che la vita è comunque bella, come una danza. Indimenticabile sei. Ciò che è stato, guarda quello che verrà, verrà, verrà, verrà, guardalo, guardalo. Della civiltà dell'amore verrà, verrà. Sì, verrà. Grazie. Abbiamo ancora 10 minuti e cantiamo. Vogliamo cantare Gesù? È una canzone un po' complicata, eh? Cantiamo Gesù, che è la canzone di Renato Zero con cui abbiamo iniziato. E poi, se resta tempo per l'una... Devo versare i diritti della SIAE. Questo... Ancora non l'abbiamo... Naviga lenti, il progresso ci aspetti già. Via tutti questi entusiasmi, nessuno che esulterà. Tanta sia nata pure lei, tempi bui un po' per tutti noi. La speranza non ci basta più. Non ci basta più la speranza. Poveri uomini. Poveri uomini. Poveri. Gesù, non ci somigliamo più. Gesù, la rabbia è colpevole. Come cose passate. Ora dono di guerra, amore di guerra, oh. La terra in ginocchio sta, la terra in ginocchio sta. Soli, più soli di sempre, soli, più soli di sempre. Il cuore non c'è da fare, tanta vita d'amore in tempo era così. Pane appena cotto e l'amore. L'armonia nelle famiglie col pane cotto adesso. Tutti intorno al fuoco adesso no. Il cielo stelle per gli anni. Gesù, hai smesso di crederci. Gesù, sei ancora con gli ultimi. Aiutaci fratello, un'altra volta fuori. Che ormai questo fratello è insopportabile. Gesù, non c'è di dolore. Rispetto alla purezza, forse troppo giusto lui, finché l'odio intanto non cresceva, con la vita affondava, un giorno una nuova gerarchia, ricchi, poveri, no? Combinatori, Gesù, i temi ecologici, avvelenano i pasto. Fiumi ormai interdetti, discariche, laggiù, ciò che credevi non. La terra è un orto ed è un deserto che avanza. Gesù, siamo tutti colpevoli. Noi siamo colpevoli. Gesù, se potrei ancora farlo tu, perdonaci. Hai visto? L'hanno imparata bene, bravo. Ora, certamente questa canzone è piuttosto lunga, però pensate alla possibilità che almeno parte di questo testo, specialmente almeno corrispondentemente al Magistero di Papa Francesco sulla Laudato Si, che questo testo, senza sostituire il testo liturgico, no? Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. E uno si domanda, ma di che cosa ti sto chiedendo pietà? No? Allora, il momento del penitenziale dell'inizio della messa, chiede, io chiedo perdono di cose serie. Allora, diciamo, sto sognando adesso, sto immaginando, ma voglio essere, come dire, non voglio essere dissacrante, però scusate, se cantassimo al momento penitenziale, no? Con sentimento e convinzione, le cose che abbiamo ascoltato in questa canzone di Renato Zero, noi chiederemo perdono a Gesù per cose serie di cui siamo effettivamente colpevoli, no? Non c'è più armonia, prima intorno a un braciere. No? Si parlava, io ricordo mio padre quando ritornava dal lavoro, ci riunivamo tutti, no? I figli, la mamma, intorno al fuoco, no? Già con papà c'era il camino, ma prima con i nonni c'era il braciere, no? E a parlare di noi, a parlare delle nostre cose, di come era andata. Adesso chi la vede più la famiglia unita? No? Dobbiamo insegnare ai nostri giovani che c'è differenza tra mangiare e banchettare. Si banchetta umanamente, si mangia. I tedeschi distinguono nel mangiare, hanno due termini. Essen, vuol dire mangiare umano. Fressen, fressen è mangiare degli animali, no? Non so se voi avete, io ho fatto l'esperienza quando ero piccolo, portavo il cibo ai porci che avevamo, talvolta due, talvolta anche tre, perché ci nutrivamo, insomma, con la carne di maiale, eh? E quando andavo, portavo a scifata, no? Quindi il cibo, questi tre o due che erano, arrivavano tutti, ma ce n'era cibo per tutti, questi pum pum pum si spingevano, perché così fanno gli animali, no? Immaginate adesso voi che so il grande patriarca che raccoglie le famiglie dei suoi numerosi figli con i nipotini e li invita a casa sua, la nonna che ancora se la sente, cucina lei perché ama i suoi figli e i suoi nipoti e cucina lei, perché vuole esprimere il suo amore per figli e nipoti attraverso la cucina. Allora il banchetto bello si prepara, l'appuntamento domenicale è a l'una e la gente comincia ad arrivare, immagino verso le 12:30, no? Perché non vado lì solo per mangiare, vado da nonna, da nonno, no? Invece no, magari qualcuno arriva puntuale, altri invece arrivano anche all'1:05, all'1:10, perché devono fare, hanno tutti grandi cose da fare la domenica, è il giorno del Signore, meno che la messa, ci sono tante cose da fare, importanti per i cattolici, arrivano lì. Ipotizziamo che arrivano tutti più o meno in un range tra l'una, in cui si doveva cominciare a mangiare, e 1:15, 1:20, massimo 1:30 d'attesa, perché qualcuno, sai, col traffico, e vabbè, aspettiamo, cominciamo. E cominciamo, il cibo viene presentato, il cibo è simbolo di tutto l'amore di questa nonna, no? Per i suoi nipoti, e tu vedi, insomma, si banchetta o si mangia? È un problema serio, è un problema serio non religioso, lo è anche religioso. È un problema serio di umanità, cioè banchettiamo umanamente oppure stiamo imparando dagli animali a fressen, come si fa, piuttosto che a mangiare, essere. Quando si mangia ci si guarda negli occhi, si dialoga, magari si attende che l'altro prenda e non prendo tutto io e l'altro eventualmente, mi spiego? Cioè c'è tutto un ritmo di umanità. Quando si mangia guardo l'altro e mi accorgo che l'altro non sta bene. Io non me ne sono accorto, il giorno dopo l'altro si è impiccato. Se mi fossi accorto di qualcosa perché banchettavo con lui invece di mangiare soltanto, probabilmente l'altro non si impiccava il giorno dopo, no? Cioè in un mondo pieno di depressi, se il cristianesimo non si impegna in nome dell'amore cristiano a ricostruire la grammatica di questa lingua umana, no? Che ci consentirà di stare insieme, di volerci bene, di accorgerci del dolore, della sofferenza dell'altro. Perché la pasta umana, la pasta di ogni uomo è questa partecipante solidarietà al dolore e alla sofferenza degli altri. Lì splende la mia umanità, quando mi accorgo, sono sensibile, perciò mi accorgo, perché sono sensibile, sono un essere umano è sensibile al dolore e alla sofferenza degli altri e ti vengo incontro, mi impegno per la tua vita ad avere cura di te. Questa è la bellezza che salverà il mondo. Chiudo con questa affermazione che ci proietta nella bellezza più grande, che è la felicità del paradiso, no? Dostoevskij nell'Idiota non ha mai detto che la bellezza salverà il mondo, come tutti ripetono. Chiunque quando parla di bellezza sa la frase di Dostoevskij. Dice, come disse Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, e tutti là. Ma non lo disse, non c'è scritto lì. Ma cosa c'è scritto lì? Lì c'è Hippolyte, un giovane nichilista, morente, nichilista. Per lui niente ha senso, solo il nulla, no? Che è stato accolto nella casa del principe Miskin, che è l'idiota. Interessante, l'idiota è Miskin. Perché Miskin è idiota? Questa espressione di Dostoevskij nel titolo già è una rivoluzione culturale. Miskin è idiota perché, pur non dovendo niente a Hippolyte, lo accoglie in casa sua e lo cura e lo ama. È un idiota. Ma l'unico idiota sei tu. va, vendi i tuoi averi e dalla ai poveri. Col cavolo, mica sono un idiota, mica sono un idiota io sono dentro qua le logiche, ti dico io come funziona l'economia, no, l'idiota Mishkin è figura del più grande idiota che sia mai esistito sulla faccia della terra, ed è chi? Gesù. Ebbene, Ippolite vede il principe entrare in casa sua, il principe, e dice: ah, principe, è vero che un giorno voi diceste che la bellezza salverà il mondo, ma quale bellezza? Il principe non risponde. Non sappiamo se non risponde perché non ha voluto rispondere, perché il politico gli ha lasciato il tempo di rispondere. Il fatto che il principe non risponde, non ha detto sì, ho detto che la bellezza salverà il mondo. No, non l'ho detto, no, non c'è scritto. Allora Dostoevsky non dice che la bellezza salverà il mondo. Dostoevsky dice, tramite il politico, quale bellezza salverà il mondo? Perché non è che le bellezze salvano il mondo. La bellezza suadente della verginità ignara che ti attrae, già. O è la bellezza del risorto. La bellezza del risorto, attenzione, la bellezza del risorto è la bellezza di chi ha attraversato l'umiliazione, la croce, la sofferenza. Quindi è una bellezza che porta dentro di sé la maturità del dono della propria vita per amore. Questa è la bellezza che salverà il mondo, e non c'è altra bellezza. Per cui Mishkin col suo silenzio risponde a Ippolite, ma non vedi qual è la bellezza che salverà il mondo? È quello che tu stai sperimentando. Io ti sto prendendo a casa mia, tu morente, e ti sto accanto, ti sto curando, ti sto mostrando un amore unilaterale e incondizionato, come l'amore eucaristico di Gesù, che è unilaterale e incondizionato. Certo, perché quest'amore venga vissuto, e poiché abbiamo ormai finito il nostro tempo, però quest'altra canzone ve la canto pure. Bisogna avere la percezione fisica, potremmo dire, che il cristianesimo nella nostra fede può dare, che la nostra vita qui non resiste sulla terra, ma ha un destino, il paradiso, ha il destino del paradiso, capite? Noi siamo fatti per amare, cioè siamo fatti per il paradiso, capite? E allora cos'è la vittoria che vince il mondo? La risurrezione di Cristo che ha vinto il mondo, l'amore del risorto vince il mondo, e io posso vincere il mondo con le sue tentazioni, ma perché? E perché aspiro al paradiso, e per entrare in paradiso devo venire a sapere la cosa più bella che Gesù Cristo ci ha donato e ci ha detto: tu che sei un essere mortale, tu che stai per morire, tu non morirai mai. Tu non morirai mai, perché per te, essere mortale, la morte non è annientamento, la morte è trapasso dalla gioia dell'amore che hai vissuto, da questa luce bellissima che hai attratto in te, no? Luce, più luce nel tuo corpo, la luce infinita ed eterna del paradiso. Questa canzone la scrissi quando è morto mio padre, proprio per animare la speranza nel paradiso, ed è un lamento funebre portato a musica pop, no? Durante il lamento funebre voi vi accorgerete, quando c'è il lamento funebre, delle note poetiche, diciamo dall'esterno, parlano della risurrezione di Cristo, della nostra risurrezione in Cristo. Ovviamente io non le posso cantare, perché se no non posso fare il lamento, però bastano le parole che servono nel vuoto di te, Vorrei dedicarla a tutti voi, perché alla fine siamo diversi, ma tutti siamo accomunati dall'esperienza della morte, Abbiamo sicuramente ognuno un caro defunto, da ricordare. Così, sei andato via, lontano da me. Così, semplicemente, tu non sei più qui, e il dolore colma il cuore nel vuoto di te, e il dolore forza il cuore nel vuoto di te. Non morirai, no, non morirai. Ringraziamo Sonia, ringraziamo Pierluigi e Antonio.